Sì! Fare! Si può fare. L'attualità, anche d'estate, di Alessio Maurizi. Buonasera cari ascoltatori, ben ritrovati. 800 24 00 24, questo è il numero verde per intervenire in diretta. Come ogni sera, cominciate a prenotare subito i vostri interventi. Alessio Maurizio in studio, Carlo Gabardini in studio qua con me. Buonasera a tutti. Autore comico, attore, quello di Camera Caffè, tante altre cose. Ma soprattutto stagista per Ma Si Può Fare. Soprattutto stagista, domani però salterai un giorno assente giustificato, sì, perché sarai sul set di un film che si va lavorando a Varese. Aluino, domani sono Aluino, sia tratto domani sia libro, giovedì. Tratto da un libro di Piero Chiara che si chiama Il Pretore di Cuvio, per uscirà la regia di Giulio Base. Non lo so. Il numero verde l'abbiamo detto, siamo anche su Facebook, Si Può Fare trattino Radio 24, Si Può Fare 24 l'account su Twitter. Ci sono come ogni sera Riccardo Buccero, Laura Faggini in redazione, Andrea Piana che ci aiuta a scrivere il programma, Valeria Bernardi in regia. Partiamo subito con i titoli di Sky TG24. Letta sui 100 giorni di governo dice: siamo concentrati su misure, non sullo scontro politico. Intanto la flessione del PIL rallenta. Sentenza Mediaset, il Quirinale chiede di evitare intrusioni, duro attacco di Grillo, Napolitano deve passare il testimone, dice. Berlusconi condannato perché sapeva, bufera sul giudice intervistato dal Mattino, si muove la difesa, dice, episodio gravissimo. Gli Stati Uniti chiedono agli americani di lasciare lo Yemen, sale l'allerta terrorismo, in un'intercettazione i piani di Al-Qaeda. Padre Dall'Oglio rapito da un gruppo islamista, lo conferma Emma Bonino che aggiunge: le minacce del terrorismo sono consistenti. Pagano a 39 le vittime della strage sulla 16, non ce l'ha fatta la ragazza di 16 anni morta in un ospedale di Napoli. Niente posto in ospedale, un elicottero per il trasferimento guasto, una donna muore di parto in Sicilia, è stata aperta un'inchiesta. Calcio d'agosto tra eterni rivali, la Guinness Cup mette di fronte Inter e Juve, la diretta è stanotte su Sky Sport. Che il presidente Berlusconi non chiederà né gli arresti domiciliari, né la messa in prova, né l'affidamento ai servizi sociali. Il presidente Berlusconi va in carcere. Gli italiani devono sapere che si mette in carcere un uomo come Silvio Berlusconi. In prigione, in prigione, sei proprio tu in prigione. Che il giudice della Cassazione sono dei comunisti. Sì, due iscritti alla magistratura democratica. Quando tre corti hanno stabilito una verità giudiziaria, quella è, e se noi togliamo autorevolezza alla magistratura, diventiamo paese, una specie di paese del terzo mondo. Allora, io me lo tengo con orgoglio, ma non era lei quella della aumentate maglietta della nazionale? Tasse, onorevole Santanchè, lei scusate, è irresponsabile. Allora, peraltro oggi c'è un in prigione, questo dice Daniela Santanchè, non si sa se parla perché lo sa o perché siamo ancora a livello di propaganda, oppure se è quello che davvero Silvio Berlusconi è intenzionato a fare. Il tema della successione, c'è una tra le tante dichiarazioni, una interessante, non so anche lei quanto sia informata, Renata Polverini, la sentiremo tra un attimo, che dice la cosa di Marina non sta in piedi perché lei non è interessata. Ma sentiamo prima la Serracchiani, che a proposito di questa possibile successione in famiglia parla di idea coreana. Mi sembrerebbe un po' troppo una leadership coreana di padre in figlio. Dico anche che non si è aperta una discussione all'interno del PDL, mi pare che la diretta chiamata in causa ha detto che non è assolutamente interessata, quindi parliamo di versioni giornalistiche che non corrispondono alla realtà. In qualche modo la ce la intendiamo così di leadership coreane, a me pare di vedere molto spesso nomi che si rincorrono tra padre e figlio, ma mogli, mariti, cioè. In Oh, da oggi, tra l'altro, c'è anche la raccolta firme. Ti ricordi di Furlan? L'avevamo sentito, quello dell'esercito di Silvio Gabardini, ti ricordi? No, noi... sì, certo, Furlan, aveva detto che sarebbero andati, insomma, a fare il presidio per chiedere la grazia al Quirinale. Adesso la grazia è sembra che non sia possibile, è passata di moda, diciamo così. E si parla, questa è la loro proposta, una raccolta di firme per una legge di iniziativa popolare per chiedere l'amnistia. Quanta gente onesta! Una proposta di legge di iniziativa popolare per fare un'amnistia. L'amnistia è, se voi leggete il significato che ne dà Wikipedia, è un atto di opportunità politica e di pacificazione sociale. Noi riteniamo che sia esattamente quello che oggi necessita in Italia. Oh, invece c'è un'altra offesa di qualcuno della Lega al ministro Kienge. Sembrava che si fosse risolto tutto, e invece l'assessore di Lograto, siamo nel Bresciano, Giuseppe Fornoni, avrebbe scritto su quello che riportano le agenzie, sulla sua pagina Facebook, Vaf puntini puntini musulmana di M puntini puntini. Non so se i puntini puntini li ha messi Lanza o li ha messi lo stesso Fornoni. Comunque l'hanno resa molto incomprensibile, devo dire. Chissà che cosa si riferisce. Allusioni. Tra l'altro musulmana non credo, perché la Kienge è del Congo. Tra l'altro ha frequentato l'Università del Sacro Cuore cattolica italiana. E poi in Congo la maggioranza è cattolica, mi sono informato, è cristiana, 41%. Poi ci sono i protestanti, altri cristiani, cioè i musulmani sono una minoranza, quindi credo che la Chiesa non abbia niente a che fare con questo. Ah, ci ha raggiunto Luca Zaia, buonasera Zaia. Buonasera a tutti. Presidente della Regione Veneto, ci fa molto piacere che lei sia qui con noi. Intanto, vabbè, non so se conosce questo esponente del suo partito, che... Guardi, che comunque io direi che è il caso di condannare tutti questi fatti senza se e senza ma, nella maniera più assoluta. Noi abbiamo bisogno di confrontarci con questo ministro, come con tutti i ministri, sui fatti concreti, su temi quali l'immigrazione, l'integrazione, e non sicuramente basare il nostro confronto su offese o robe del genere. Pensi che io avevo pensato di fare l'intervista iniziando facendole i complimenti, perché almeno dal mio punto di vista mi sembra che la sua posizione, insieme a quella di Tosi, riesca a tenere insieme forma e sostanza. Cioè, voi sulla sostanza criticate quello che propone il ministro Kienge, però nella forma, su questa questione degli insulti, siete stati molto chiari. Forse Maroni un po' meno, non ha preso del tutto le distanze come voleva il ministro Kienge. Ma guardi, in questa partita anche Maroni, il partito, si è sempre espresso in maniera inequivocabile, e devo dire che io per primo ho subito puntualizzato, anche perché ormai stava diventando l'emotivo, e soprattutto noi non possiamo accettare che poi il confronto con questo ministro diventi una sostanziale e continua lesa maestà, nel senso che il ministro per me non ha colore di pelle o particolari estrazioni sociali. Io vedo il ministro e l'istituzione con la quale mi voglio confrontare, quindi dovrà anche abituarsi il ministro Kienge ad essere contestata, ma dobbiamo contestarla eventualmente qualora ci fosse la necessità sul piano dei programmi, delle progettualità, delle proposte. Ci fermiamo per il traffico un attimo e poi torniamo con Luca Zaia, presidente del Veneto. Good news e traffico. And now the good news. I mini market del riuso sono una catena di negozi in cui gli abiti vecchi riprendono vita. Rattoppati, tagliuzzati, personalizzati con disegni o borchie, i vestiti fuori moda diventano irriconoscibili. L'idea è venuta a due ragazzi di Rimini che oggi sono titolari di più di 10 negozi in Italia. In tempo di crisi non si butta via niente. Si può fare l'attualità anche d'estate. Di nuovo in compagnia di Luca Zaia, presidente della Regione Veneto. Stava dicendo, Zaia, che il confronto col ministro Kienge non può essere, dal vostro punto di vista, diciamo, edulcorato, diciamo così, da una presunta lesa maestà ogni volta che si dice qualcosa. Ma perché secondo lei il ministro Kienge gode di un'immunità particolare per il fatto di essere di colore? No, guardi, io penso una cosa, che pochissimi casi isolati che si contano sulle dita di una mano, della Lega in questo caso, hanno comunque devastato il dialogo che noi volevamo civile, sereno, ma soprattutto che si basasse su un confronto concreto. Lesa maestà perché? Perché poi ne consegue che oggi attaccare o discutere di fatti che riguardano il ministro Chienza bisogna farlo sempre con la massima attenzione, con la massima cautela, perché è come una bottiglia di nitroglicerina, perché qualcuno potrebbe sempre capire qualcosa che non c'entra nulla con le tue riflessioni. Quindi questi insulti sono anche degli autogol dal suo punto di vista, perché diciamo mettono sul terreno questi equivoci e non si riesce più a discutere poi tranquillamente sulle questioni, dice lei. Ed è la preoccupazione che ha una persona come me, che è sempre stato amministratore, ho conosciuto tutte le cariche amministrative, e io vorrei portare nella discussione, in quel faccia a faccia che ho chiesto di poter fare, e eventualmente anche una festa del PD, io sono disponibile con il ministro per portare ad esempio il modello Veneto, una regione governata dalla Lega, una regione che ha moltissime amministrazioni della Lega, che è al primo posto in Italia per integrazione. Questo a dimostrazione che quello che spesso che si dice in giro poi nella realtà è tutt'altro. Quindi lei rilancia questa cosa di voler avere un dialogo col ministro, visto che lei non vuol venire alla festa a Milano Marittima in un raduno del PD. Ma sì, guardi, ci vorrebbe qualcuno del PD che media però per trovare una sede, che ne so. Ma guardi, io non ho problemi, in tutta sincerità, per me questa non è una sfida. E io vorrei parlare, guardi, io sono nipote di un emigrante che è nato nel 1896 a San Paolo in Brasile, poi è riemigrato, è nato negli Stati Uniti a New York nel 29. Ho avuto la fortuna, mio nonno è morto a 100 anni, perché ho sentito tutti i racconti. Ho zii in tutto il mondo, ci sono più veneti fuori dal Veneto che in Veneto, perché noi siamo 5 milioni in Veneto, abbiamo più emigranti veneti fuori dal Veneto, quindi vorrei anche parlare di quello che è per noi l'emigrazione e l'immigrazione. È un po' cosmopolita Zaia da questo punto di vista, per questo tratto biografico che io non conoscevo, si può usare questa parola per lei? Guardi, io dico una cosa, che un partito identitario come il nostro non può che essere cosmopolita, e certo è che la tua libertà finisce dove inizia la mia e viceversa, nel senso che il cosmopolitismo prevede come prerogativa il rispetto dell'identità altrui. Noi abbiamo un bel progetto di integrazione per i 500.000 immigrati che sono in Veneto e contribuiscono al 5% del prodotto interno lordo veneto, che parlano veneto come tutti noi, che si sono assolutamente integrati e sono i primi a chiederci rigore nei confronti degli immigrati che delinquono. Parlano tutti veneto, gli immigrati che sono in Veneto parlano tutti veneto? Ma guardi, io so che fa sorridere spesso questa frase, sì, ma 7 persone su 10 in Veneto parlano e pensano in Veneto, e in maniera ovviamente uguale tra le case, cioè in maniera. Ma che statistica è, Zaia, questa qua? Cioè è una statistica sua personale oppure c'è proprio uno studio? No, ma guardi che è un dato di fatto, qui noi facciamo l'atto notarile con notaio che ci parla in Veneto, piuttosto che il medico ci visita facendoci le domande in Veneto, oppure l'operaio nel cantiere parla in Veneto. Per noi è una cosa comune, del resto è una lingua che si è parlata per 1100 anni, è una lingua che comunque è diffusissima. I ragazzini, fate la prova, andate alle squadre di calcio, alle bande musicali o negli oratori, sentite che lingua parlano i nostri ragazzini. Ma sul merito della questione Ius Soli, so che voi non ne volete sentire neanche parlare, però entrando nel merito, come dice lei Zaia, secondo me giustamente, perché l'Italia cambia e ci vogliono forse leggi nuove, la Chieng una volta qua da noi, proprio a Radio 24, credo una delle poche volte, disse sì, però temperato, cioè non che automaticamente chi nasce in Italia, figlio di stranieri, ha la cittadinanza, ci vogliono dei passaggi e forse anche degli anni. Su questo terreno si può discutere? Ma guardi, non è che dobbiamo discutere di un progetto della Chiesa, perché ne ho parlato io in tempi non sospetti, in maniera molto più, come si può dire, esaustiva. Il problema è che di Ius Soli di fatto non ne vogliamo parlare, perché significa dare la cittadinanza sul modello, ad esempio, degli Stati Uniti, che è l'unico forse perfetto in questo senso, come Ius Soli puro, a tutti coloro che nascono in quel paese. Il che vorrebbe dire, gli Stati Uniti innanzitutto non sono un modello da riprendere, perché gli Stati Uniti se li scelgono gli immigrati, questo varrebbe la pena ricordare. Noi abbiamo 8.000 km di costa, sarebbe difficile controllare gli ingressi, ma soprattutto ricordiamo che noi abbiamo anche il sistema sanitario che è garantito a tutti, tanto per fare un esempio. La vera partita qual è? La vera partita non è lo Ius Soli, la vera partita è ricordare che un cittadino immigrato in Italia dopo 10 anni può avere la cittadinanza, cosa che non si ricorda mai. La vera partita è ricordare che se una persona ha la cittadinanza perché nasce sul nostro territorio, normalmente non possiamo avere la garanzia che questa persona parlerà l'italiano, conoscerà le nostre tradizioni e conosca la nostra storia. Ultimo aspetto, c'è un problema da risolvere, risolviamolo, io sono il primo che l'ha proposto, è quello dei ragazzini, figli di immigrati che hanno la residenza in Italia, vivono in Italia, sono scolarizzati. Esatto. E sono ragazzini che avrebbero la cittadinanza al 18° anno. Si può anticipare. Si può anticipare, ma questo è il modello, ad esempio, tedesco. Il modello tedesco prevede che all'ottavo anno di età, se sei scolarizzato e i tuoi genitori sono in Germania almeno da 5 anni, sei cittadino tedesco. Secondo me questa cosa non è lontanissima da quello che... Sì, sì. Mi perdoni, un'ultima cosa, poi mi zittisco, mi rendo conto che ho parlato troppo. Lo Ius Soli, lo dico a beneficio di tutti quelli che si stanno ascoltando, visto che adesso va di moda, fa fico dire io sono per lo Ius Soli. In Europa lo Ius Soli è una mosca bianca perché tutti gli stati non lo applicano di fatto. No, no, ma diciamo ci sono paesi in cui si applica, però per esempio in forma temperata. Guarda, il paese in cui si applica è la Francia, se lei me ne dice altri facciamo la lista. Cioè, i paesi europei, l'Europa... Guardi, adesso non ho qua, mi ero fatto una lista una volta, ci sono alcuni paesi, non sono molti in effetti, e però ognuno poi ha delle regole, perché non ci sono automatismi. Io credo che la proposta che ha fatto lei, secondo me, potrebbe essere una proposta paradossalmente sulla quale anche il ministro Kyenge sarebbe d'accordo. Cioè, a che età... Ma io non uso, mi perdoni, io non userei l'alibi dello Ius Soli. Vabbè, ma non parliamo di Ius Soli, parliamo di cittadinanza raggiunta all'età... Lo dico al ministro, se il ministro pensa di porre il problema di questi ragazzini utilizzando lo Ius Soli, io dico che per questi ragazzini è doveroso e civile risolvere il problema, ma non serve parlare di Ius Soli. Ma quale potrebbe essere, Zaia, l'età, dice, residenza continuativa e scolarizzazione? Io dico che quando c'è una residenza continuativa dei genitori, almeno da 5 anni, e quando abbiamo una scolarizzazione che arriva all'ottavo anno di età, lo Ius Soli lo lasciamo perdere. Modifichiamo la legge sulla cittadinanza e diciamo che questi cittadini, questi ragazzini, invece di attendere il 18° anno di età come c'è scritto oggi, la legge c'è scritto, possono far domanda dal 18° al 19° anno di età, ce l'hanno d'ufficio all'ottavo anno o nono anno, quello che è. Ma non serve scomodare lo Ius Soli. Perché nel momento in cui apriamo il tema di Ius Soli temperato... Io sono perfettamente d'accordo con lei su questo e credo che anche secondo me lo Ius Soli, se serve solo a agitare polveroni, non serve a niente. Invece questa proposta qua mi sembra molto ragionevole. Però mi perdoni, è il ministro che ha esordito con Ius Soli, non noi. Questo è vero, questo è vero. Beh, sicuramente lì c'era anche una dichiarazione di principio, una bandierina che è stata piantata da parte sua. E forse guardi, è servito anche ad aprire il discorso. Sì. Mi perdoni, lasciamo perdere le dichiarazioni di principio. Le do un dato del Veneto, così le do un'idea di qual è il problema. Noi abbiamo 600.000 immigrati. Beh, sa quante richieste di cittadinanza abbiamo avuto ad oggi? 9.000. Sì, sono una piccola parte. Allora, diciamo che dietro a lui Ius Soli forse ci sono altre convinzioni ideologiche o umanitarie, come volete, ma non sono un'emergenza in questo caso in Italia, perché nel mio Veneto solo 9.000 immigrati hanno domandato la cittadinanza italiana. Zaia, noi volevamo parlare anche delle sue dichiarazioni dopo i blitz della Guardia di Finanza in alcune località di vacanza, tra l'altro anche Jesolo, che a dire la verità ha messo a fianco a Portofino, Santa Margherita Ligure, Taormina o altri posti un pochino più VIP, è un po' meno VIP forse da questo punto di vista. Però è una gran spiaggia. Però è una gran spiaggia. Fa 9 milioni di presenze turistiche, non mi distrugga Jesolo. Ecco, allora era giusto andare a controllare anche lì. Cioè, c'era magari meno VIP, ma tanta qualità, tanta gente. Però ma guardi, noi siamo la prima regione turistica d'Italia, facciamo 70 milioni di presenze, 32 milioni li facciamo nelle spiagge, non c'è solo Jesolo, abbiamo Bibione, Eraclea, Caorle, Sottomarina, insomma abbiamo un sacco di spiagge. Adesso questo è il momento proloco di Zaia, momento proloco. No, guardi, io sono amministratore delegato del Veneto, non di Taormina o di altri posti, per cui difendo il mio Veneto. Noi non siamo contro i controlli, ci piacerebbe il modello tedesco, le dico la verità, che qualcuno ti chiama, ti dice guardi passo la prossima settimana, prepari i libri, mi prepari una scrivania, vengo a controllare. E poi sai, ci poniamo sempre un problema, ci chiediamo se da nord a sud i controlli si fanno con la stessa energia, con la stessa veemenza e con la stessa, come si può dire, diffusione che viene utilizzata da noi. Io spero di sì, perché se non fosse così sarebbe una sperequazione. Però hai motivi, informazioni per dire che, non lo so, a Taormina o in altri posti non è andata così, oppure hanno controllato meno che nel nord? Ma guardi, io non glielo so dire in questo senso. So che ci sono delle località in Italia dove è più difficile controllare rispetto ad altre, o delle borgate o dei quartieri di alcune città dove è più difficile rispetto ad altre. Questo ce lo dite sempre voi giornalisti. Dico anche che quando guardo la TV, da me se un ragazzino gira in moto senza casco è fulminato, nel senso che lo bloccano appena messo in moto il motorino. Vedo spesso servizi dei TG nazionali delle piazze, di alcune piazze di alcune città, e vedo che ci sono ragazzini tranquillamente che girano col motorino, in due sul motorino senza casco, e i vigili che guardano la strada. Saranno immagini di repertorio. La percezione è altra, sì. No? No, vabbè, questa è anche una questione. Ma lei diceva preferirebbe il modello tedesco, dove si avverte prima e si dice verremo il giorno tot, preparate i libri contabili. Però questo vale per i gestori, diciamo, gli esercizi. Ma in questi controlli non si va a cercare di pescare anche magari il libero professionista che ha messo qualcosa in nero in tasca e va a pagare alla cena o all'albergo cercando di non fare la fatturazione, e si guarda se c'è parcheggiato un SUV o qualcos'altro? Ma guardi, mi perdoni, cioè, se uno ha un SUV ce l'ha registrato la motorizzazione civile, penso che non serva inseguire la gente per strada, no? Cioè, ormai abbiamo un'intelligence tale, una dote di dati, di informazioni, glielo dico per esperienza, sono stato ministro, che non c'è. Però c'è tutto il tema delle auto di lusso intestate a società che poi vengono usate per la vacanza, per esempio. Beh, guardi, il tema dell'auto di lusso intestata alla società ti permette di fare un bel controllo nella società nel momento in cui ci sono le vacanze, tanto per dirne una, piuttosto che fare altre verifiche. Però le dico, a livello di dati ne abbiamo da vendere, penso manchi solo la risonanza magnetica e l'attacco, poi hanno tutto di noi. Cioè, per cui poi ho l'impressione che rincorrere il ragazzino con lo scontrino per il cono gelato sia, per carità, sia senza... Però non è questo, Zaia, perché se parliamo di ristoranti dove si spendono 60-70 euro a cena, lei dice che si evade perché non c'è alternativa per sopravvivere. No, guardi, io non ho giustificato l'evasione, mi perdoni, non l'ho mai giustificata l'evasione. Però insomma, in vacanza cena 50-60 euro, come ci ha detto il sindaco di Santa Margherita Ligure, allora io non so Jesolo, sicuramente non parliamo di persone che hanno problema della sopravvivenza, questo lo escluderei. Io non ho mai parlato di sopravvivenza, io ho detto un'altra cosa e approfitto della vostra ospitalità. Sì. Ho detto che l'evasione va combattuta senza se e senza ma. Il calcolo dell'evasione ipotetica a livello nazionale è di oltre 100 miliardi di euro, il che è una cifra paurosa. Però dico anche, attenzione, perché io sono convinto che ad alcuni livelli, che non sono quelli di grandi evasori, ma anche quella della miseria umana, spesso ci sia qualcuno che anche evade nel suo piccolo perché comunque ha difficoltà a sbarcare il lunario, a chiudere i conti. Non è una giustificazione, perché il lavoratore ad esempio ha tutte le tasse e le paga con regolarità, però penso anche che quando tu paghi il 68% di tasse per una partita IVA, per uno sfigatissimo magari negozio, magari qualche tentazione arriva, no? No, perché poi c'è anche dalle quello parti mie, sì. Dove a un'ora e mezza di strada da Veneto c'è la Carinzia che ha il 25% di tasse. Questo è comprensibile. Però c'è anche sempre quello del ristorante a fianco che magari le paga tutte le tasse perché è più, come dire, indotto a non trasgredire la legge. Bisogna avere solidarietà anche per quello, non solo per quell'altro, forse, no, Zaia? Comunque, no, guardi che la solidarietà va a chi paga le tasse, non a chi non le paga. Però il dato di fatto è che, se non vogliamo essere ipocriti, dobbiamo metterci nelle condizioni di capire che con una tassazione massima, che è il 68% tra balzelli, tassazione diretta e indiretta, le aziende non stanno in piedi. C'è poco da... qualcuno potrebbe dire che io sono un pazzo. Ce la raccontiamo, io le vedo le partite IVA che chiudono e sento i ragionamenti. Cioè, e per questo io propongo un'aliquota unica. Se abbia il coraggio di fare una sperimentazione, utilizzate il Veneto, fate quello che volete. Si sperimenti un'aliquota unica, moderata, dal 30-35%. E si inaspriscano le pene, l'interdizione dei pubblici uffici, si mettano in galera quelli che reiterano il reato dell'evasione, si buttino via le chiavi. Sono d'accordo anche su questo, Zaia, stasera siamo d'accordo su tutto, non conta perché io non conto nulla. Però discorsi sensati, non può essere che d'accordo con me. Ci dobbiamo fermare qua però, purtroppo, perché abbiamo la borsa. Grazie per essere stato con noi, il presidente della Regione Veneto, 800 24 00 24, il numero verde tra poco, adesso ci fermiamo. Ricordo che io purtroppo non posso parlare con gli ospiti, questo è l'ingaggio dello stagista. Va bene, commentiamo dopo, puoi commentare dopo. Borsa. And now, the good news! Gratta Gratis è il primo scontrino che premia il consumatore. Sul retro di ogni scontrino fiscale è stampato un gratta e vinci che può nascondere uno sconto o un premio. L'idea viene da due imprenditori monzesi, convinti che l'incentivo spingerà i consumatori a chiedere sempre lo scontrino. Più che la lotta, poté la lotteria all'evasione. Si può fare l'attualità anche d'estate. 800 24 00 24 per intervenire in diretta. Tra pochissimo, intanto c'è qualche sms, ci scrivono alcuni ascoltatori. Allora, la Lega a Pordenone ha fatto chiudere l'ambulatorio per i migranti, hanno creato un clima da caccia alle streghe, vergogna Zaia, dice Luca da Pordenone. Questo è arrivato troppo tardi, non abbiamo fatto in tempo a chiederglielo a Zaia. Poi c'è chi conferma: in Sicilia la grande maggioranza non indossa il casco. Saluti Andrea, che non so se scrive proprio dalla Sicilia. A Schio l'inquinamento acustico dei motorini è fuori controllo, scrive Fornella, diretta a Zaia. Ma sempre sui problemi però più piccoli. La cosa molto bella di Zaia, devo dire che mi sembrava un'analisi veramente lucida quando ha detto che 7 persone su 10 in Veneto parlano e pensano in Veneto. Che ti mi sei sembra... attaccata all'unica cosa bella, che però si è lasciato scappare un po'. No, no, perché scappa? No, no, ma guarda, è bella. Sì, la trovo... Ma è vera secondo te? Perché questo io gliel'ho chiesto. È parecchio vera, nel senso che è descrive un dato di fatto interessante, perché è anche un modo di pensare, se vogliamo. Quindi è interessante. Tra l'altro c'è anche un sms che ci è arrivato. In Veneto, no? No, di un ragazzo che diceva: ho visto più africani in Veneto che parlano bene il Veneto, piuttosto che ovunque, insomma, quindi che dava assolutamente ragione. Questa è bella, no? E poi la cosa del Jussoli, che adesso vorrei capire anche dagli ascoltatori che cosa ne pensano, perché in realtà ammetto di essere in parte d'accordo con quello che adesso ha detto Zaia, quindi vorrei che invece ci spiegassero perché è meglio lo Jussoli, ovvero che basta nascere in un posto per essere di quel posto. 800 24 00 24. Tra l'altro la serata si era aperta con questa dichiarazione di questo assessore del comune di Brescia, Lograto, che aveva dato alla Chienge Waff musulmana di M. Questo è stato un po' anche lo spunto poi con Zaia, che però ha detto chiaramente che questi insulti vanno assolutamente condannati. Magdi ci chiama da Milano, buonasera, benvenuto. Sì, buonasera. Io sono da Milano. Prego. Vivo in Italia da 23 anni, sono egiziano, ho avuto la cittadinanza dopo che ho fatto l'iter normale 10 anni di cittadinanza, la richiesta e tutto il resto. Io sono d'accordissimo con il ministro Zaia, non sono un elettore della Lega. Ah, scusi un attimo Magdi, perché c'è una precisazione sull'SMS, sì, a 349-38-6666, che in effetti Pordenone non è in Veneto. È in Friuli, quindi io l'avevo visto e l'avevo immediatamente attribuito. No, faccio lo stage, io non è che posso correggerti. No, quindi non era diretta a Zaia, non c'entra nulla. Quindi l'ascoltatore che ha scritto una fesseria dicendo che Zaia è una vergogna su questo. Va bene, Magdi, prego. Quindi sono d'accordissimo con il ministro, il governatore Zaia. Sì? Perché io non credo che se mio figlio, io ho due figli, sono nati in Italia. Adesso che sono italiano sono automaticamente italiani, però io conosco anche il figlio del presidente Morsi, che ha avuto i figli soltanto partorire negli Stati Uniti, poi è tornato subito in Egitto per fargli avere la cittadinanza, passaporto americano. Sì. E questo non è corretto, perché di fatto loro hanno una testa fondamentalista musulmani e non appartengono. Vabbè, se hanno la testa fondamentalista americana non lo sappiamo, Magdi. Sappiamo però che lo dico io, da quello che sta succedendo adesso glielo dico sì, io. Vabbè, dalle dichiarazioni. Soprattutto però non se è corretto che uno viene qua a partorire. Io ho degli amici egiziani che vanno a far partorire i figli negli Stati Uniti e poi subito dopo tornano. Si vede che l'America è talmente forte nel suo concetto di patria e di suolo che si permette anche questo. Comunque è chiaro, Magdi, il suo intervento. Quanti anni hanno i suoi figli? I miei figli hanno 8 e 11. Però io sono italiani, perché lei aveva già la... parere mio da immigrato, sì, perché secondo me è una propaganda per distrarre l'attenzione dal governo che c'è adesso, perché ha dei compiti difficili, a volte non riesce a trovare una via d'uscita, allora parlano col ministro Chienge per distrarre un po' l'attenzione. Va bene, grazie Magdi. Andiamo a Giovanni che ci chiama sempre da Milano. Buonasera. Buonasera Alessio. Eccoci qua. Intanto volevo farle i complimenti perché lei è uno che ha la schiena dritta ed è piuttosto difficile in questo momento trovare qualcuno con queste caratteristiche. Beh, io la prendo per vera. Diciamo. E vorrei che lei rimanesse, perché io sono tornato a Radio 24 perché c'è lei, se no questa trasmissione non l'ascoltavo più perché era inascoltabile per me. E adesso volevo dire una cosa, cioè... passano delle informazioni, tantissime, che non sono vere, che sono false, e i giornalisti non intervengono. E questo ritengo sia una cosa gravissima, perché per esempio… Per esempio quale informazione? La Santanchè per esempio dice che Berlusconi va in galera. Non esiste questa possibilità, perché la legge non consente questo. Però la senta, ma sei sicuro di questo? Perché io non ho capito esattamente, perché… cioè il anche tribunale... Travaglio ha scritto un articolo in cui dice che in realtà potrebbe andarci in galera come successe per Callisto Tanzi, o sbaglio? No, la legge nuova, sì. La legge nuova, quella che ha fatto Monti, non prevede questo, il giudice deciderà o i domiciliari oppure... comunque chiaramente una provocazione della Santanchè, che è molto, diciamo, Berlusconi andrà in galera, è giusto che gli italiani sappiano che va in prigione. No, ma soprattutto, scusate, ma qualcuno può essere sicuro in Italia con le norme, con le leggi che abbiamo, che vengono interpretate sempre in modo diverso, e capita spessissimo che ci sia qualcosa di certo da questo punto di vista? Io non lo so. Lei fa questa dichiarazione. Per quanto risulta a me, le cose stanno così. Però voglio dire, voi siete dei giornalisti seri, tu in modo particolare. No, io no, solo Alessio è giornalista, io sono uno stagista, mi scusi. Gabardini è qua in veste di stagista, però sta imparando. Avendo un maestro così bravo, sta imparando. Assolutamente. Riesci subito. No, però voglio dire, allora fate un approfondimento voi. Cioè, a me risulta che con la legge che ha fatto Monti, l'ultima legge che è stata fatta del governo Monti, che è stata votata lì, non c'è più la possibilità di andare in galera. Sì, però non pensa che non sia questa la questione in questo momento. No, non ci andrà in galera Berlusconi. No, ho capito, ma però voi, l'ascoltatore pone una questione. Nel senso la classe giornalista facendo passare un messaggio che non è vero. No, allora però Giovanni, scusi un attimo. Quelle due precisiamo, parole lì, sì, precisiamo un attimo una cosa. Giovanni, mi faccia dire una cosa. Precisiamo questo però. Non è che ogni volta che uno dice qualcosa, un politico, possiamo andare a smentire o a controllare tutto, perché ci vorrebbe due vite da vivere per poter fare questo lavoro qua, ci vorrebbe troppo tempo. Dopodiché, se vuole che le dica cosa penso io, penso che la Santanchè intenda, per esempio, che Berlusconi potrebbe presentarsi davanti al carcere e a fare una sorta di messa in scena, così come la Biancofiore ha detto che le dimissioni si possono presentare e possono essere respinte. Cioè è chiaro che per c'è fare un'altra... delle foto, diciamo, per avere delle foto stupende per fare una campagna elettorale con queste foto. C'è sicuramente un concentrato di propaganda su questo, e poi la sostanza è come dice lei, cioè che Berlusconi vada in carcere è quasi escluso. Ecco, questo sì, questo lo possiamo dire, lo dicono più o meno tutti. Grazie Giovanni, buona serata. Giacomo da Bologna. Buonasera, vorrei tornare a quanto ha detto il presidente Zaia per capire una cosa che poi è quella fondamentale, nel senso che se la Lega Nord ha esponenti come il presidente Zaia, che sicuramente sono intelligenti e ragionevoli, e infatti avete anche sottoscritto voi stessi le sue proposte, per quale motivo a un certo punto non fa un po' di pulizia con tutti quegli esponenti, e non solo piccoli assessori, perché basta andare a parlare di Borghezio, che fanno semplicemente della pubblicità a se stessi e poi oltretutto la pubblicità negativa alla Lega stessa per quanto riguarda un'eventuale politica nazionale? È un'ottima domanda, speriamo che telefoni Zaia per rispondere, perché la domanda mi sembra ottima. Forse la risposta è un po' che, voglio dire, portano voti anche quelli, alla fin fine bisogna raccogliere voti. Sì, dalle ultime elezioni mi sembra che gli italiani poi abbiano cominciato anche a evolversi, nel senso che io chiamo dal nord Italia e se devo essere sincero io vengo da paesi dove addirittura c'era stato un voto in un certo senso, chiamiamolo di cambio, cioè città che erano rosse che erano diventate quasi città verdi, cioè della Lega Nord, però poi la gente dopo l'ultimo governo Berlusconi ha incominciato anche a aprire per un esempio, pochettino gli occhi. Giacomo, a Bologna la Lega quanto si è fermata alle ultime elezioni? Ma io sono bolognese di recente adozione, quindi io posso dire che in un centro come Vignola, che comunque era un piccolo centro nella provincia di Modena, aveva avuto dei risultati sperati alle ultime elezioni nazionali. Quindi e comunque a prescindere, nel senso, 3-4 anni fa parlava con ragazzi anche della mia età, io ho 28 anni, e saltava fuori che la Lega Nord erano persone intelligenti, erano capaci, erano buoni amministratori, che non sono falsità, però io non mi sento, cioè io in cuor mio, siccome quando voto cerco anche di non insultare la mia intelligenza, vorrei capire come posso rapportarmi un giorno con uno come Zaia e un giorno con uno come Borghezio o con diversi piccoli assessori o piccoli esponenti, per dire, prendiamo Ancuntosi è una persona molto ragionevole. Loro fanno, cioè Zaia fa presto a dire si contano sulle... Va bene, già abbiamo capito cosa dice lei, insomma la Lega dovrebbe fare pulizia, dovrebbe eliminare, se è vero che la linea è quella che ha detto Zaia, dovrebbe per esempio un assessore come questo qua della provincia di Brescia, che ha detto quella cosa irripetibile su Akinci, quello sicuramente andrebbe espulso, insomma, sicuramente. Va bene, grazie. Che poi è una roba che uno c'ha anche un po', credo, nel DNA, perché anche Zaia dire che è partito benissimo nella sua intervista, però poi a un certo punto, diciamo, è di nuovo caduto sulla banalità di dire a Napoli si va senza casco, che mi sembra un po' forse un po' basta questa, siamo nel 2013, basta. Ma tu sei stato recentemente a Napoli, perché io ho l'impressione che non si allontana molto dalla verità. Ma non mi sembra il problema. Silvio, vieni a fare i lavori socialmente utili da noi. Questa è la proposta che arriva dall'associazione City Angels e da Mario Furlan, che ne è presidente. Buonasera. Buonasera, sì, è una proposta che ci ha aperto venuta... i timpani. Furlan, lei è omonimo tra l'altro del fondatore dell'esercito di Silvio, che sì, adesso infatti, sta facendo... Ogni tanto ci sono giornalisti e politici che mi chiamano che pensando confondono. Che io sia l'altro Simone Furlan. E invece siamo proprio su due sponde diverse, però resti un attimo lì in attesa perché dobbiamo fare il traffico e poi approfondiamo questa questione qua. 800 24 00 24, tra un attimo. And now the good news. Passamano a Bolzano è un negozio dove si può prendere quel che si vuole senza usare denaro. Chiunque può donare gli oggetti che non usa più e chi intende riutilizzarli può prenderli senza pagare. Grazie a qualche ora di volontariato, il sistema funziona. Recupero e riutilizzo. Gli oggetti passano di mano. Passaparola. Si può fare l'attualità anche d'estate. Sono tanti quelli che dicono a Silvio Berlusconi di andare a lavorare, a fare i lavori socialmente utili da loro. Mario Capanna, Don Mazzi, anche i City Angels di Milano. Però Furlan, mi sa che rimarrete tutti delusi perché la Santanchè ha detto Berlusconi va in carcere. Lo risentiamo un attimo? Ce l'abbiamo? Sì. Che il presidente Berlusconi non chiederà né gli arresti domiciliari, né la messa in prova, né l'affidamento ai servizi sociali. Il presidente Berlusconi va in carcere. Ah, va in carcere. Gli italiani devono sapere che si mette in carcere un uomo come Silvio Berlusconi. Furlan, voi avete qualcuno che fa la pena alternativa presso di voi? Già? Noi abbiamo parecchie persone che vengono a fare i lavori socialmente utili presso di noi. Quindi parla sul serio, parla ragion veduta, insomma. Sì, e io credo che questi lavori socialmente utili siano veramente utili, perché se mandi qualcuno in carcere, se appena appena un mezzo delinquentello diventa un delinquente intero. Se invece gli fai fare lavori socialmente utili, gli fai fare volontariato, aiuta chi ha bisogno, quella persona cambia cuore, cambia vita. Vabbè, questo sì, però non è il caso di Berlusconi, credo. Cioè, nel caso di Berlusconi, l'amico Angelo Perrino, direttore di Affari Italiani.it, ha scritto una lettera in cui diceva: caro Berlusconi, anziché fare gli arresti domiciliari o il carcere, perché non fa qualcosa di socialmente utile, ad esempio presso i City Angels? Poi gli ho parlato al telefono, mi ha detto: Mario, riprendi questo argomento, tu che ne diresti se Berlusconi venisse da voi? Io direi: guarda, lo accoglieremo a braccia aperte come accogliamo chiunque, con nessuna differenza rispetto a tutte le altre persone che vengono da noi. Tanto, e aggiungo, sì. Credo che fare i lavori socialmente utili, o comunque fare volontariato, è qualcosa che servirebbe a tutti i politici e a tutti i potenti. perché i potenti, chi sta nel palazzo, non vive nel mondo, vive nel suo mondo, in un suo mondo dorato, in un suo mondo dove vede il mondo vero a distanza. Cioè lei dice, a prescindere dalla pena, sarebbe bello che tutti i politici, potrebbe essere una legge, no? Che prevede che tutti i politici facciano un periodo di sei mesi, no, di carcere, in prova con i servizi sociali, cioè proprio a contatto con i più deboli, nelle situazioni più difficili. Questo sarebbe... Io credo che sarebbe utile. Forse ti ricordi che Mao Zedong mandava i dirigenti del partito a zappare la terra. Diceva, questo però non c'entra nulla, cioè, vabbè, Mao Zedong. No, questo no. Mao Zedong faceva a modo suo. Ha fatto tante cose che non andavano fatte. La rivoluzione culturale è stata un crimine immane. Ma il concetto, chi ha una responsabilità, chi ha potere, deve stare in mezzo alla gente e deve stare anche in mezzo agli ultimi, a chi soffre. Sì. Credo che sia una cosa importante. Però ecco, non credo che Berlusconi accetterà. Perché... Anche perché avete la divisa rossa, proprio rossa, se non ricordo male voi, giusto? Un po' Garibaldini. Sì, la giubba è rossa. Non so se Berlusconi si metterà proprio una giubba rossa. No, credo di no, piuttosto va da Don Mazzi. Furlan, tra l'altro, lei lo conosce Berlusconi, è stato dipendente di Mediaset o siamo mal informati? Sì. No, siete ben informati. Io ho lavorato proprio alla Silvio Berlusconi Editore, oltre che a Mediaset, e ho visto Berlusconi due volte per il lancio del settimanale Noi, che poi è diventato Chi. E entrambe le volte che l'ho visto, prima che entrasse in politica, ha molto colpito me e tutti i colleghi giornalisti, perché abbiamo visto un editore molto grintoso, dinamico, energico, un vero motivatore. Io di lavoro faccio il docente universitario di motivazione, ma devo dire che Berlusconi come motivatore mi batte alla grande, è uno che veramente ti riesce a dare la carica. Ma perché esiste una cattedra di motivazione, il docente universitario di motivazione? Ebbene sì, sono che io sappia, il primo senz'altro. Credo io anche il primo che sento di sicuro. Sì. Ma dove? In che università? All'università e campus. Ah. Lei ha tanti record, Furlan, perché oltre ad essere l'unico docente di motivazione, è anche uno dei pochi che sul tema delle ronde, per esempio, di cui adesso si torna a parlare a Milano, è uno dei pochi che ha diciamo i titoli per parlarne. Ci fu l'ondata rondista, voluta soprattutto dalla Lega quando era ministro dell'Interno Maroni, che prevedeva l'associazione di cittadini per il controllo delle strade. In pochi presentarono domande a questi bandi, pochissimi, per esempio a Milano in 3, e voi eravate tra questi. È così? Intanto? No, allora, un conto sono le ronde e un conto è quello che facciamo noi. Noi abbiamo sempre detto che siamo contrari alle però ronde. Sono cose che confinano un po', perché a volte si parla delle ronde, si prende a pretesto, diciamo, anche l'aiuto ai senza fissa dimora, eccetera, però per dire controlliamo le strade e stiamo attenti alla sicurezza. Guarda, noi facciamo, allora... Il presidente Napolitano ha detto voi siete parte dell'Italia migliore, il Papa, l'ex Papa Ratzinger ha detto voi siete i Boy Scout del XXI secolo, questo è ciò che noi cerchiamo di fare, andiamo sulla strada in cerca di persone da aiutare, la ronda va in cerca del nemico, noi andiamo per aiutare i senza tetto, gli alcolisti, i tossicodipendenti, cittadini in difficoltà, abbiamo lavorato molto bene con l'amministrazione Moratti, abbiamo partecipato a questo bando per... Non è bello chiamarle ronde perché in realtà è un'altra cosa, sì. Avevamo dei nostri volontari, i nostri angeli, soprattutto immigrati, che andavano in alcuni punti della città segnalati dal comune per fare opera di mediazione linguistica, culturale, però, sociale. Furlan, io capisco che la parola ronde no, giustamente è distante dal vostro concetto, però... se uno pensa alle ronde con i randelli in mano, sì, allora siete distanti, ma se uno pensa alle ronde come lo intendeva, credo, anche nell'accezione migliore la Lega, cioè controllo del territorio, voi con questa cosa di mediazione aiutate anche a tenere un po' il controllo del territorio, no? Noi aiutiamo anche a tenere il controllo del territorio. La parola ronda è una parola un po' sputtanata, perché quando si parla di ronda si pensa subito a una cosa aggressiva, violenta. Io credo che soltanto le forze dell'ordine abbiano la prerogativa di fare opera di sicurezza. Quello che noi possiamo fare... Però ecco, un attimo, fermiamoci un attimo, Furlan, perché la notizia adesso qual è? È motivo anche per cui vi abbiamo chiamato, che il Comune di Milano in autunno, ha detto l'assessore Maiorino, l'assessore credo che sia ai servizi sociali, vuol fare un bando per le unità mobili sociali, cioè quindi rilanciare che cosa? Perché non si è capito bene, il Corriere ha scritto le ronde, qualche assessore del Comune di Milano si è risentito, la Lega ha detto subito sì siamo disponibilissimi, perché noi è da anni che lo diciamo. No, è un'altra cosa, è una cosa molto diversa. Quello che Maiorino vuole fare, a quanto ho capito, è una cosa molto positiva. Durante l'inverno noi City Angels e anche altre associazioni di volontariato andiamo sulla strada con unità mobili per aiutare i senza tetto. Andiamo in giro in metropolitana, sul tram, sull'autobus, in vari punti della città per vedere dove sono, per raccoglierli e portarli nei centri di accoglienza. Si tratta di prolungare questo esperimento per tutto l'anno, quindi fare sì che tutto l'anno, soltanto d'inverno durante l'emergenza freddo, ci sia. Però anche in zone particolarmente sensibili, per esempio per i fruitori, i cittadini pendolari che usano metropolitana, e si cita addirittura la linea dell'autobus, quella circolare 90-91, cioè dove, che va avanti tutta la notte, dove spesso si creano situazioni anche di disagio, se non di pericolo. E quindi ecco perché il concetto di ronda è stato ritirato fuori. Cioè, questo che vuole. Credo che sia normale che se tu sei in giro per aiutare chi ha bisogno, se vedi una ragazza che ha paura di andare a casa da sola e chiede di essere accompagnata, cosa fai? Non l'accompagni? È per quello che il concetto poi non è così distante da quello di ronda. No, è che è importante secondo me sottolineare questo, perché è il fatto che se ci siete voi, magari delle cose non accadono, ma voi non siete lì a far sì che queste cose non accadano, cioè a bloccare eventuali malviventi. Comunque, perché secondo me è importante. Rosso, siamo ho sbagliato perché forse. Perché con l'ospite non devi parlare, c'avevamo l'ingaggio. Ma è il mio motivatore. Mi difenda Furlan in qualche modo, perché in effetti sono stagista e non potrei parlare con l'ospite, però lei mi ha motivato e allora questa volta bravo. Ho diciamo pisciato fuori dal vaso, come si suol dire. No, invece noi stagisti. Ha detto giusto, noi siamo in giro in cerca di persone da aiutare. Se poi la nostra presenza con la nostra divisa serve a scoraggiare i malintenzionati, ben venga, è un effetto collaterale molto positivo. No, che dovete comunicarlo bene, perché il percepito secondo me a volte è che invece sia una cosa più paramilitare. Certo, perché è il comune che fa il bando, loro parteciperanno al massimo. Lui ha detto quello che doveva dire. Io voglio sapere invece dagli ascoltatori all'800 24 00 24, dopo però il giornale radio, cosa ne pensano di questo, se sono le ronde della giunta Pisapia o se è dell'altro. Avete sentito le parole dei City Angels. Good news, giornale radio, e torniamo subito dopo. And now, the good news! Dal 2012 le mense scolastiche del comune di Macerata adottano solo cibo biologico e a chilometro zero. Mentre tutti tagliano, qui si investe sull'economia del territorio, sui produttori locali e soprattutto sulla salute dei bimbi. Chilometro zero, zero rimpianti. Si può fare l'attualità anche d'estate. Eccoci qua di nuovo in diretta, cari ascoltatori, all'800 24 00 24. Ci abbiamo Gianluca da Taranto, Antonello da Varese. Un attimo di pazienza, perché piano piano arriviamo. Siamo su Facebook e su Twitter, potremo leggere ogni tanto anche qualche commentino. Però non lo so. Commenti di Twitter, no, in realtà volevo dire un'altra cosa di Twitter che mi sembra bello, che c'è Jack Nicholson, diciamo tra i trending topic, quindi le tendenze, i temi caldi, al settimo posto, perché è uscito una notizia che dice che se si dovesse fare un film su Berlusconi, Jack Nicholson è il più papabile per interpretare il suo ruolo. Quindi Jack Nicholson è tra i trend topic, esatto. Cioè tra le parole più usate, i temi caldi. Ma è solo di luce riflessa, perché in realtà il tema sottotraccia è sempre Silvio Berlusconi. Assolutamente. TG3. Berlusconi condannato perché sapeva, il giudice Esposito parla della sentenza media, se il PDL lo attacca, il presidente della Cassazione intervista inopportuna. Napolitano interviene per smentire le interpretazioni sul suo colloquio con il PDL, basta intrusioni, ora è il momento della riflessione. Quagliariello, ci sono falchi a destra e a sinistra, hanno provato a far saltare il governo, da domani al Senato si discute della decadenza del Cavaliere. Letta, andiamo avanti con determinazione, gli italiani capiscono che non c'è alternativa alla stabilità, siamo ad un passo dall'uscita dalla crisi. PIL da 2 anni in rosso, ancora giù nel secondo trimestre, ma il calo rallenta, Giovannini ripresa vicina, dubbi dei sindacati. L'allarme globale lanciato dagli USA dopo le intercettazioni di Al-Qaeda si concentra soprattutto nello Yemen, se ne vanno americani e britannici. Il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, compra il Washington Post, il giornale americano che fece cadere Nixon, è la nuova vittima della crisi della carta stampata provocata da Internet. sei innocente, tu che non hai fatto niente, tu che ti lamenti perché ti hanno imbrogliato. Allora adesso senti, tu andrai in prigione, in prigione, in prigione, proprio tu in prigione, perché ti serve una lezione. Guardate che il presidente Berlusconi non chiederà né gli arresti domiciliari, né la messa in prova, né l'affidamento ai servizi sociali. Il presidente Berlusconi va in carcere. Gli italiani devono sapere che si mette in carcere un uomo come Silvio Berlusconi. In prigione, in prigione, sei proprio tu in prigione, e che ti serva la nazione. Sembrerebbe un po' troppo una leadership coreana, di padre in figlio. Tu che hai calcolato, tu che hai provveduto. Dico anche che non si è aperta una discussione all'interno del PDL, mi pare che la diretta chiamata in causa ha detto che non è assolutamente interessata, quindi parliamo di versioni giornalistiche che non corrispondono alla realtà. Se ci sarà un dopo Berlusconi non può esserci un Berluschino, dovrà necessariamente esserci una forza collegiale che avrà comunque Berlusconi come punto di riferimento. Oh, avete sentito il tema della successione a Berlusconi? Questo era l'onorevole Saverio Romano, ex ministro, che dice in maniera un po' criptica da politico: non ci deve essere un Berluschino dopo Berlusconi, ci vuole un partito collegiale, Berlusconi sarà il padre nobile, insomma niente Marina. La Polverini, che non so quanto sia informata, ma sembra essere nello stretto cerchio dell'entourage berlusconiano, dice che Marina non è interessata a questa cosa qua, quindi le indiscrezioni di stampa di Libero, che ha tirato la menata su questa cosa qua per settimane, sarebbero tutte infondate. La Serracchiana invece parlava di modello coreano, nelle dittature si passa di padre in figlio. Ah, io pensavo leadership... che volesse dire una leadership senza collo, coreana, come le camicie, invece ho capito male. Tra l'altro Berlusconi ha lo stile, no? Intanto domenica era senza collo sul palco. Domenica era senza collo sul palco, l'ha detto Alessio. Va bene. Oh, adesso invece, tra l'altro, ecco, sulla Santanchè che dice in prigione, abbiamo scelto il tema musicale, Gabardini ha una esclusiva, l'articolo di Travaglio che dice, perché un ascoltatore ha detto, ah giusto, sì, facciamola finita, non può andare in galera Berlusconi. Invece, no, rispondevo che Travaglio, se non ricordo male, in un suo articolo scrisse che in realtà tecnicamente Berlusconi può andare in galera, come accadde per Callisto Tanzi. Poi onestamente non credo che sia la questione, perché non andrà in galera Berlusconi per un anno, insomma non mi sembra proprio questa la questione, però direi che la tecnica c'è. Non se ne sentiva il bisogno, ma il giudice Esposito, lo sapete tutti ormai, stamattina è stata pubblicata una sua intervista in esclusiva sul Mattino. Tra l'altro non dice un'intervista, avranno estrapolato una domanda o due, no, è un'intervista lunghissima con decine di domande, tutte sulla sentenza Mediaset. È vero che lui fa dei ragionamenti che valgono anche in generale per altre sentenze, per altre questioni, ma insomma in realtà risponde anche proprio nel merito della questione. Apriti cielo, sentiamo la reazione dell'avvocato di Berlusconi, Coppi. Come dice un altro mio illustre cliente, a pensar male si commette peccato, però spesso ci si azzecca. Di fronte a una condotta così inusuale, certamente uno rimane perplesso, tenendo conto che per di più noi consideriamo quella sentenza ingiusta. L'altro cliente è ovvio, era Andreotti, la sua celeberrima frase. Però bello chiamarlo un altro mio illustre cliente senza nominarlo. Molto elegante. L'esercito di Silvio Furlan, la dichiarazione che lancia la raccolta di firme per una legge di iniziativa popolare per chiedere l'amnistia a settembre. Inizieremo dai primi di settembre con la raccolta firme su tutto il territorio nazionale attraverso gli oltre 500 nostri reggimenti presenti, in maniera da raggiungere il più velocemente possibile le 50.000 firme che sono necessarie per poi fare in modo che questa venga messa nel calendario della Camera. Furlan, tra l'altro Furlan 8 ore fa ha twittato: esercito di Silvio oggi davanti a Montecitorio per portare avanti una battaglia di democrazia e libertà. È questa? Esatto. Infatti queste dichiarazioni sono state prese di... Ti stavo leggendo la convocazione da Twitter, visto che sono lo stagista di Twitter. Di Twitter. ci hai sempre creduto. Allora, tra poco riprendiamo con i vostri interventi all'800 24 00 cari ascoltatori. 0024 cari ascoltatori. Prima però è il momento a quest'ora ogni giorno del nostro punto di vista strambo. Oggi torniamo in zona mare. Bello, ottimo. Non a Jesolo dove hanno fatto i controlli fiscali. Neanche a Santa Margherita Ligure dove eravamo ieri. Andiamo a Pisa dove c'è lo stabilimento balneare. Sento già delle voci. Big Fish con Diana Gallo. Buonasera Diana. Buonasera, salve. Presidente dell'associazione Alba che, come si dice, gestisce lo stabilimento balneare dove lavorano anche ex pazienti psichiatrici. So che questa cosa, questa dizione, Diana non la preferisce, però è così. Sì, sì, è così, anche se ci piace di più dire persone che hanno avuto sofferenze, disagi, che ne stanno facendo grazie a corsi di consapevolezza. Mettiamola così. Non ce l'abbiamo un telefono fisso dove rintracciare Diana, perché il cellulare prende così così. Si sente male? No, ci proviamo. Ce lo dici in diretta? No, forse no. L'indirizzo, il numero di telefono. Sennò poi chiamano tutti. Io ti chiamo tutti i giorni poi, se no, per venire anche semplicemente al mare. Sennò parte lo stalking pesante nei confronti, nei vostri confronti. No, vediamo se riusciamo a farlo così. Non è che avete avuto anche voi qualche controllo fiscale dell'Agenzia delle Entrate? Lì non ci sono VIP a Big Fish. VIP? Very important VIP. People. Cioè, siamo noi, vivi. Quindi tutti, ovvio. Cioè, voi quindi non sono arrivate la Guardia di Finanza a fare i controlli sul litorale lì pisano dove siete voi, no? Sai che No, non qui ti da risulta. Noi no, però può darsi anche che in altri bagni, sì, comunque è venuta la ASL, sono venuti Siete a posto. Di porto, siamo soggetti a tutte le verifiche di tutti. Bravo, i controlli sono stati fatti. Ricordiamo brevemente, per chi non avesse sentito l'altra volta, l'associazione Alba e questo stabilimento balneare, come nasce, Diana? Allora, nasce grazie alla vittoria di una gara di appalto pubblica col Comune di Pisa e abbiamo vinto la concessione. Quest'anno lo gestiamo per quest'anno e il prossimo anno e speriamo anche per i futuri, e l'abbiamo rimesso su. Era un bagno che purtroppo era stato degradato da 2 anni, che era un pochino sepolto insomma dalla sabbia. C'era anche l'amianto, mi ha detto una volta, da eliminare. Era pieno di amianto purtroppo, insomma era una cosa che doveva essere fatta anche da tempo, perché negli anni 60 o 70, non so, l'ho sparata così, si facevano forse le onduline, le coperture delle cabine con l'amianto. Sì, esatto, infatti questo tra l'altro questo è un bagno degli anni 50. Ci sono anche strutture della prima guerra mondiale addirittura, quindi le cabine sono degli anni 50 e erano tutte ricoperte con il cemento amianto. Pensa un po', uno va al mare adesso e se non hanno fatto la pulizia che hanno fatto loro, capita anche di averci ancora l'amianto da quelle parti lì. Siamo un lavoro encomiabile, bravi. Come va con... Perché uno si domanda, i clienti dello stabilimento balneare gestito appunto da anche pazienti, ex pazienti, facilitatori, comunque persone che hanno un disagio mentale, eccetera. Chi è che viene da voi? Sono persone invece cosiddette normali oppure persone particolarmente sensibili? Come si è sparsa la voce? Ma di tutti i tipi, già abbiamo ereditato una, diciamo, nostro giro di persone, di familiari, di utenti che già frequentavano l'esperienza del circolo L'Alba in via delle Belle Torri, perché già abbiamo un'esperienza consolidata di ristorazione bar in via delle Belle Torri numero 8 a Pisa, e quindi abbiamo ereditato momento prologo dei nostri soci, altri soci erano già qui allo stabilimento precedentemente, e poi ci sono persone che hanno scoperto questa spiaggia e ci hanno meravigliato con la loro sensibilità e con la loro dolcezza, perché comunque il complimento più bello che ci fanno è che ci si sentano veramente in una spiaggia che è di tutti e che non è una monade di un ombrellone, ma si sente uno spirito comunitario. Questo è il messaggio più importante. Perché a volte al mare uno invece sta nel suo ombrellone, nel suo spazio, guarda magari il vicino con aria sospetta, no, adesso sto scherzando. Sì, no, però insomma comunque non c'è questo spirito di partecipazione che tutti ci stanno dicendo, che invece è molto alto nella nostra spiaggia, uno spirito di condivisione, di scambio, c'è il laboratorio di ceramica aperto tutti i giorni con i bambini, ci sono l'accessibilità per persone con diversità, con diverse abilità, il wifi, insomma ci sono benedetto vari... Benedetto il laboratorio di ceramica per bambini, così intanto i genitori mollano un attimo i figli si rilassano 5 minuti. Sei lì con qualcuno? L'altra volta avevamo il cuoco, se non ricordo male. Sì, sì. Chi c'è lì con te? C'è San Marco, se il cuoco, te lo sempre passo dal cellulare, se no l'altra volta lo chiamassi dal fisso. No, no, facciamo un passaggio rapido sul cellulare. Disturbiamo sempre il cuoco verso le 7:30, sperando di non rovinare, diciamo, poi la cena a chi viene a mangiare. Cucinare fa passare l'ansia e la paura. Marco, sentiamo un po' se riusciamo. Aspetta, ti passo un secondo, Marco. Sì, questa è proprio una cosa che è zero radiofonica. Marco, non la avete un attimo fuori. Ma come? Avete il cellulare, ma con il cavo? Cioè, che dovete. No, no, no, non c'ho il cavo, solo che lo faccio uscire dalla cucina perché non sentiamo niente. Non lo so se facciamo in tempo, però, perché volevamo fare. Sì, te lo passo, ho finito il corso ora. Marco, ha finito il corso. Cosa si mangia stasera a Big Fish? Altra ricetta di pesce buona, qualcosa. Cosa si mangia? Cipolla di Trofea in agrodolce con dei gamberoni bolliti. Ah, hai capito, gamberoni bolliti. Come mangiamo? Gamberone lardarellato con della pasta cataifi su una catalana di frutta, buonissima. Una catalana di frutta? Sì. Cos'è una catalana di frutta? In pratica è la frutta tagliata finemente in arte, tagliata a triangoli per abbellire un bellissimo piatto. Marco, fate un po' i fighetti anche voi. Cioè, cos'è la frutta tagliata a triangolo? Non abbiamo capito. No, la frutta tagliata a triangolo. Cioè, sono dei pezzetti di frutta. Però la Macedonia. Triangolo. Facciamo delle forme geometriche. Usti. Chi c'è che fa i corsi lì di cucina con voi? Ci sono una cinquantina di persone. Però, ma che sono, bambini o adulti? No, adulti. Adulti, uomini, di tutto. Tutti i generi. Vabbè, insomma, buon appetito, gamberoni bolliti, meraviglioso. Bene, Marco, congratulazioni, sì. buona cena, buon tutto. Salutaci Diana, non facciamo di nuovo il passaggio perché sennò diventa una follia. Ci sentiamo la settimana prossima, mi raccomando, continuate così, grazie. Ciao. Ok, ciao. Vi ricordo di votarvi sulla Nazione. Cosa? Cosa dobbiamo fare? Votarti sulla Nazione? Perché? Certo, c'è perché un concorso? Stiamo partecipando a un concorso in cui la classifica sono come chef dell'Italia, siamo primi comunque la Nazione. Aspetta, perché traduco io. Allora, un concorso sulla Nazione, sul giornale quotidiano della Nazione, per i migliori chef del litorale. C'è anche Marco dello stabilimento Big Fish. Noi naturalmente facciamo il tifo per lui. Grazie ancora, abbiamo fatto anche lo spot e buona serata. Ciao. No, non c'è già. Ah, è già attaccato. Adesso facciamo la borsa. Good news, borsa. Poi torniamo e non dobbiamo trascurare i nostri ascoltatori all'800 24 00 24. And now the good news. I mini market del riuso sono una catena di negozi in cui gli abiti vecchi riprendono vita. Rattoppati, tagliuzzati, personalizzati con disegni o borchie, i vestiti fuori moda diventano irriconoscibili. L'idea è venuta a due ragazzi di Rimini che oggi sono titolari di più di 10 negozi in Italia. In tempo di crisi non si butta via niente. Si può fare l'attualità anche d'estate. Ed è arrivato il momento di sentire i vostri interventi. Questa era l'atmosfera che si respirava a Big Fish. Ormai siamo degli affezionati. Poi degli abitué, direi. Gli abitué, dovremo andarci prima o poi per renderci conto di persona di cosa stiamo raccontando. Cioè di Macedonia e altri triangoli, quindi dobbiamo la andarci catalana assolutamente. Di frutta. Abbiamo Luca che ci chiama da Taranto. Buonasera. Buonasera a voi. Chiamavo in merito all'argomento dell'evasione fiscale, che è un totem, un argomento che in Italia è sempre molto sentito, ma da qualche parte ho letto, forse su internet, di uno studio fatto dalla Confcommercio di Veneta, di una provincia veneta, che diceva che di quei 140 miliardi di evasione fiscale italiani sono un dato che vanno analizzati in quanto una percentuale di questo valore è attribuibile alla malavita organizzata, che è un fenomeno tipicamente dell'Italia. Un'altra parte è attribuibile alla grande multinazionale e un'altra parte al doppio lavoro dei dipendenti pubblici e che pertanto l'evasione fiscale attribuibile alle piccole e medie imprese, ai commercianti, eccetera, fosse un valore intorno ai 20 miliardi, 15 miliardi, c'è un dato quasi in linea, in media con i valori europei. E, ma me lo porta questo studio, perché sono curioso di questo studio qua, a parte che se la fonte è la Confcommercio, che sono finiscono poi per essere indiziati di essere una parte di questa evasione, capisco che ci sia una sorta di autodifesa, questo non per dire che i commercianti sono tutti degli evasori, ma se la fonte di questa analisi sono i commercianti stessi, si tirano, diciamo, un po' l'acqua al loro mulino, che ce la gira via mail questa cosa, questo studio, così gli diamo un'occhiata. Sì, io l'ho sentito, l'ho letto da qualche parte e lo voglio cercare, se riesco a trovarlo ve lo giro volentieri, perché comunque credo che il dato dell'evasione fiscale sia un dato che vada anche analizzato più correttamente, più precisamente. Però questo non vuol dire sì, 140 Luca, miliardi di evasione, è chiaro che sì, non sono tutti recuperabili. Però lei ha citato diverse cose, no? Ha detto le multinazionali, erano divise la mala vita, cioè di 140 miliardi una percentuale molto sono tutte alta. Cose da combattere, no? Cioè non è che una esclude l'altra, bisogna combatterle tutte e cercare di eliminarle tutte. Però chiaramente quando si parla di evasione fiscale spesso si attribuisce il problema alle piccole e medie imprese, ai piccoli artigiani, ai commercianti che vengono individuati. Io non sono né commerciante né, voglio dire, però è un dato che può essere anche corretto, da valutare in maniera corretta. Ma questo c'entra qualcosa con i blitz dell'Agenzia delle Entrate nelle località di mare? Veramente è uno studio di cui l'ha citato a prescindere. Ho letto già diverso tempo fa, è abbastanza datato. Va bene, grazie Luca, grazie, buona serata. Antonello, volevi commentare? Ha autosqualificato lui stesso lo studio che ha portato. No, questo è uno studio. No, ma non è proprio uno studio, è così, uno studiolo. Va bene. Antonello da Varese, buonasera. Sì, salve, buonasera, mi sentite? La sentiamo abbastanza bene. Prego. Bene, allora innanzitutto buonasera Alessio e buonasera Carlo. Buonasera, grazie. Il mio intervento stasera in realtà vorrebbe esprimere la più viva e vibrante soddisfazione, come si usa dire, per il posto di Beppe Grillo, perché io sono assolutamente convinto che uno dei freni di questi anni italiani sia stato proprio Giorgio Napolitano. Il posto di Beppe Grillo, ricordiamo che cosa dice Antonello, ci ricordi lei che cosa dice il posto di Beppe Grillo, così ci facciamo anche un ripasso. Allora, il posto di Beppe Grillo non fa che ricordare il freno che Giorgio Napolitano è stato negli ultimi anni per lo sviluppo, diciamo, politico italiano, per una qualche forma di evoluzione della forma politica partitica italiana. Non fa che ricordare che le scelte a cui Napolitano in qualche modo ha costretto i partiti politici dell'attuale maggioranza sono state in realtà un rinvio unico di ogni emergenza, di ogni cosa utile per il paese, insomma. E da un certo punto di vista il tono questa volta veramente poco irrisorio nei confronti del Presidente della Repubblica, forse è ancora più forte. Ma dove saremmo quindi senza che Toni sia abituato Grillo? Spesso non sono d'accordo con ma dove saremmo senza Napolitano, però cioè è stato un freno, e quindi se non ci fosse stato che cosa sarebbe accaduto di diverso? Noi abbiamo avuto l'opportunità di cambiare un Presidente della Repubblica, Beppe Grillo, nel suo post di oggi. Io l'ho letto una volta, non l'ho ovviamente studiato, ma ho ben chiaro, mi è sembrato, ho avuto la sensazione come se mi abbia tolto un dente proprio lì direttamente, perché è esattamente quello che penso sul tema. Non sono sempre d'accordo con i toni e con le impostazioni che dà ai suoi post, però in questo caso io sono assolutamente d'accordo sull'inchiodare il nostro Presidente alle sue responsabilità nei confronti dell'immobilismo che stiamo vedendo. È difficile la lettura, perché se prendiamo dal punto di vista della popolarità delle iniziative di Napolitano nel governo Monti, nel governo Letta, sembrano particolarmente amati, soprattutto Monti. Se la prendiamo dal lato dell'emergenza e dell'unica istituzione, è stato detto, che è rimasta in piedi in questi due anni, benché rieletta, quindi anche con la fragilità del caso, Invece da questo punto di vista qua il giudizio è opposto, ma naturalmente chi la pensa come lei vede come il fumo negli occhi Napolitano. D'altra parte non è una novità, perché no. Grillo non l'ha votato, ricordiamo tutti come è andata l'elezione, no? Dopo le fallite votazioni c'era il candidato del Movimento 5 Stelle eccetera, poi uscì fuori Napolitano bis. È anche un po' il suo ruolo, se vogliamo, è un po' il ruolo del Presidente della Repubblica, quello di mantenere la stabilità politica, insomma, il ruolo da innovatore non è che ce lo deve avere il Presidente della Repubblica, poi dopo ci sono presidenti buoni e altri meno buoni, ma... Andiamo dove andiamo? Abbiamo qualcuno particolarmente in attesa da più tempo? Angelo dalla provincia di Varese, prego. Bergamo, Brescia. Sì, sì, sì, Brescia, mi scusi, mi sono confuso con Antonello che chiamava da Varese, sì. Allora, io dico soltanto una cosa, che la Santanchè continua a dire che Berlusconi va in galera, ma che lo mettono in galera e buttano via la chiave? È 20 anni che ci sta ricattando, è 20 anni che ne abbiamo piene le scatole. Io ho sentito la Santanchè quando ha fondato la destra tanti anni fa, a dire tante di quelle parolacce a Berlusconi, di far venire il volto a stomaco. Poi una cosa, io però, chiedo mi scusi, voi, anche se Berlusconi va in galera e si butta via la chiave, non è che i suoi elettori che ci sono si possono eliminare uno ad uno, eh? Sì, sì, ma quando si parla di 10 milioni di persone che vanno in galera, ma ci sono anche gli altri 10 milioni che sono fuori di galera che non hanno votato, ma perché soltanto quelli della parte e non quelli dall'altra parte? Poi domenica, quella scena surreale napoletana con quel pianto di prenderci per il culo scendendo dalla scala con la sua badante. Ma signore, piantiamola di far ridere l'Italia. Cioè, io chiedo a voi, su 4 processi, 4 magistrati hanno detto una cosa, sono andati a Roma, dopo sono stati 3 giorni in camera per vedere se era da condannare o no. Ma se c'era una virgola che potevano non condannarlo, l'avrebbero fatto. Ma invece l'hanno condannato. Senta, invece questa intervista del giudice della Cassazione che oggi... Ma certo, è una rossa bufala, prima la condanna e poi salta fuori che questo ha detto una stronzata. Cioè, prima lo condannano e adesso vanno a attaccarsi lì con quelle parti. Tra Brescia e Bergamo, diciamo sempre che in Bergamasco, in Bresciamo, prima scappa i boi, dopo sarà sui stalli. Prima scappano i buoi e poi chiudono le stalle. Cioè, l'hanno condannato. Adesso sì. Vanno a prendere tutte le scuse, che questo qua, quello lì, sopra, giù. Ma la più grossa e bella cosa, quando sento la Santanchè che dice: ma dov'è? Portatemi qualcuno che è stato a letto con lui. 32 orgettine. Orgettine, la sì, orgettine, 32. Ma portatene qualcuno. Ma adesso quello che ho sentito anche, che stanno indagando anche Ghedini e Longo per falsa testimonianza. Cioè, stiamo qua ancora davanti 20 anni con Silvio e cantano anche la canzone Per fortuna che Silvio c'è. Ma cantano quello che gli pare, Angelo, e sì, ma sono suoi concittadini. Ma io a casa mia tanti anni fa avevo un quadro della Madonna dietro, l'ho messo via, ho messo quello di Silvio e lo prego, Silvio pensaci tu. Però sono quando la cacca. E come sta andando? Come sta andando male, con queste preghiere? Male. Male, perché io faccio l'agente di commercio. E rimetta la Madonna allora. Cosa? Rimetta la Madonna forse. Ma sì, forse è meglio che rimetta ancora la Madonna, così almeno spero qualcosa in meglio. Angelo, lei che lavoro fa? L'agente di commercio? Sì. Cioè il rappresentante? Sì, sì. Di che tipo di prodotti, se ce lo vuol dire? Sì, sì, posso dire termosanitari. Ah. E come va adesso il mercato, la situazione? Per fortuna che Silvio c'è. È da 5 anni che dice che la gente di qua e di là, purtroppo lei sa benissimo che ultimamente i cantieri non vanno avanti. Le case non si costruiscono, sì. Automaticamente le altre cose vanno tutte dietro. È una catena. Poi hanno inventato una più grossa ancora, di inventare la classe A. La casa classe A. Ah, pensavo fosse una macchina. Cos'è la casa, no, la casa classe A? Ma l'italiano è la cosa energetica, l'efficienza energetica. Il risparmio. Questo però ha dato un nuova linfa, no? Un po' al mercato, o no? Ma che linfa? Costa 4.000, 5.000, 6.000 euro al metro quadro, una casa di 40 metri costa 240.000 euro. Ma sapete che nessuno sa cos'è la classe A delle case? che non si possono aprire le finestre. E ce lo spieghi? Perché... Allora, la casa classe A, se c'è qualche ingegnere che poi dopo vi telefona, allora si deve sempre essere le finestre chiuse. Uno che fa le broccole... È una casa che puzza, quindi... Certo, non possono aprire le finestre perché sennò si abbassa la temperatura, si abbassa, come si chiama lì, io però non ho capito non ho capito perché siamo arrivati a questo punto. Di cosa stiamo parlando? Di case della classe A, niente, mi informavo perché io non sapevo che cosa fossero. Allora facciamo così, signor Angelo, un'altra volta. Facciamo una consulenza privata a Gabardini che secondo me vuol cambiare l'infissi o fare qualcosa del genere. Sono in affitto, quindi non posso fare niente. Ci teniamo in contatto, Angelo. Va bene, grazie. Lei però non è neanche milanista. No, io sono dall'altra sponda. Ha visto, io lo sapevo, perché se no almeno un motivo per tifare per Berlusconi ce l'aveva. Invece vedevo le immagini di Balotelli che oggi si sta allenando, quindi invece lei è interista, è per questo che sotto sotto ce l'ha. No, ma io ce l'ho anche col mio presidente dell'Inter, Anche con Moratti, che adesso vuol vendere, certo, dopo ho fatto il triplete, sì? Lì ha sbagliato a non vendere tutte quelle belle persone lì con le belle statuine. Vabbè, però adesso non apriamo il capitolo Inter, perché sennò non la finiamo più. Grazie Angelo, buona serata. Buona serata, buone ferie. Ma no, noi siamo qua a lavorare, quale ferie, Angelo? Fermi, a Milano. Grazie per l'idea, ma noi siamo qua, grazie per il pensiero. Adesso andiamo a Genova. Togliete il monumento a Carlo Giuliani da Piazza Alimonda. È la richiesta che fa il sindacato di polizia COISP, nella persona che ospitiamo, Franco Maccari, segretario nazionale. E io non posso parlare, come da regola d'ingaggio, sennò sono cartellino anche... giallo diventa cartellino rosso. Diciamo che mi sono fatto ammonire apposta. Maccari, buonasera. Buonasera a lei, buonasera. No, mi chiedevo perché non può parlare. Non può parlare perché è il nostro stagista, Carlo Gabardini, sta facendo lo stage qua a Radio 24. La regola d'ingaggio è che lui può parlare con gli ascoltatori ma non con gli ospiti. Senta Maccari, perché volete togliere il monumento che ricorda comunque un ragazzo morto in una piazza, un ragazzo senza armi, non incensurato? Certo non sarà un martire Carlo Giuliani, però è il ricordo di una cosa, di una vicenda dolorosa italiana. Intanto noi non lo vogliamo togliere, ma abbiamo chiesto di capire come è possibile averlo messo, che è ancora diverso. Perché in Italia ci sono, per fortuna o sfortuna, insomma, molti monumenti che ricordano però persone che hanno qualcosa da dire al popolo, alla città, alle generazioni future. Solo il 19 di luglio, il giorno prima di questo mese, di luglio, del mese passato, ero a Catanzaro dove si è inaugurata una strada a Emanuela Loi, una delle poliziotte che è morta nella strage di Via D'Amelio. Quello del 20, chiedo scusa, ma indipendentemente dalla pietra umana, che questo non ha nulla a che vedere, qui stiamo parlando di un monumento, cioè una cosa che ricorda, un segnale, un simbolo, come la bandiera, non può essere data, e rettifico quello che dice lei, a uno che non è incensurato. Non era incensurato, intanto per cominciare, era disarmato, era stava delinquendo, cioè delinquere, commettere reati, quindi legittimi lei il nome che si può dare, ma stava non in una situazione che sappiamo tutti, insomma, poi ognuno ha le idee che c'ha, però io le faccio non è questo. Questa l'Italia sta andando veramente fuori. Qui non è un problema di idee, sulle idee ci mancherebbe, ci si confronta, ognuno può avere le sue, ma qui stiamo parlando di simboli che hanno delle regole precise, che in Italia si chiamano leggi, anche per metterle, anche per dimostrare, c'è giustamente delle regole da osservare. Quindi il motivo per cui voi volete toglierlo qual è? Beh, intanto per farle capire, giusto per essere chiari, per avere un monumento o comunque un chip o qualcosa che ricordi, qualcuno deve essere morto da almeno 10 anni, qui ci siamo, ma non è il problema dell'età. Intendo dire, molti per esempio vogliono fare subito... E qui ci siamo, però non è questo il motivo, quindi. No, assolutamente, perché deve essere noto alla nazione per atti meritori, per fatti comunque che siano di rilevanza sociale e soprattutto da indicare alle future generazioni. Le pare una cosa del genere? Al di là del fatto specifico della pietra, se ripeto, sulla quale ci confondiamo ovviamente, perché quando si mescolano le due cose è evidente che andiamo in conflitto, ma qui stiamo parlando di un simbolo, un segnale, un cippo in mezzo a una città che, se permette, Genova ne ha di persone che possono essere ricordate in maniera assolutamente incredibile anche agli occhi delle future generazioni, non certo una persona in un contesto, ribadisco, sulla quale poi ognuno può avere la propria idea, ci mancherebbe. Io non avete raccolto 4.000 firme, così? In una settimana. Quindi ma queste, sì, queste firme come le avete raccolte? Cioè, se le volete girare al sindaco? Perché è importante capire se davvero c'è una parte importante della città che appoggia questa vostra iniziativa. Allora uno dice, ma facciamo al contrario. Sì. Perché io dopo scontato che ci sia la maggior parte che dice così. Diamo per invece, domandiamoci quanti sono che lo vogliono. Perché lì è stato un blitz di un gruppuscolo di persone che ha portato un marmo da Massa Carrara regalato da un gruppo, da una società, da una ditta privata, e l'ha piazzato lì. Noi abbiamo fatto semplicemente quello che normalmente si fa. Abbiamo chiesto al sindaco di dirci per cortesia se una cosa del genere è autorizzata o meno, e non lo facciamo da sprovveduti, lo facciamo perché già 5 anni fa un'analoga iniziativa venne cassata immediatamente dal Presidente del Consiglio con tanto interpellante. Siccome siamo ad agosto, ovviamente comprendo che tutti adesso saranno in ferie, e allora magari rispolvereremo, intanto raccogliamo le firme. Cioè, voi dite ancora prima di contestare, diciamo, nel merito questo pezzo di pietra, questo monumento, che poi è anche meno di un monumento, una lapide, diciamo così, a Carlo Giuliani, voi dite che il Comune ha fatto un blitz nel metterlo, cioè contestate la regolarità stessa. Ma sì, assolutamente, mi scusi, guardi, io ho perso pochi giorni fa un amico carissimo in un incidente stradale. Tutti quanti poi, appena succedono queste cose, si animano e vogliono fare qualsiasi cosa, compreso mettere. Ma non ce ne parlerà per anni, a meno che non andiamo lì. No, questa cosa dell'amico non l'ho capita, Maccari, non ho capito. Devo cosa dire, c'entra questa cosa qua. Ho detto, ha visto sulle strade, molte volte si vedono purtroppo fiori di ricordo di persone, sì, scomparse, di incidenti, no? Sì. E molte volte mettono anche dei cippetti di ricordo, qualcosa, sì, una lapide. Anche se uno aveva un precedente penale, si può mettere il ricordo di una lapide? No, non è che se uno aveva un precedente penale non si può mettere la lapide. Mi consenta di finire, sì, perché così uso una frase di una persona più famosa di me. Le devo dire che sono tutti regolari, perché non è possibile metterle, questo volevo dire. Ci sono delle regole che vanno rispettate. Vabbè, se questo è vero, allora il sindaco Doria dovrà sicuramente rispondervi. Ma prima ancora noi abbiamo fatto una lettera, gli prima ancora che la raccolta di firme per toglierlo. Sì. La bella lettera gliel'abbiamo mandata 10 giorni fa, non ha risposto, stanno parlando alcuni consiglieri di opposizione, ovviamente. Adesso noi abbiamo mandato le prime 4.000 firme chiedendogli almeno di risponderci alla lettera. Non lo farà, non importa. Noi a fine agosto saremo nelle piazze di Genova, così facciamo un bel dibattito pubblico. Se è logico fare mettere un monumento a una persona che è morta in modo assolutamente censurabile per il modo, e soprattutto nulla da trasmettere alle nuove popolazioni. Va bene, mi sembra chiaro il vostro punto di vista. Noi volevamo sapere questo, perché e per, certo, come, cioè queste firme che avete raccolto, 4.000, vedremo come vi risponderà il sindaco Doria, sarà interessante capire soprattutto questo aspetto qua della forma, certo, perché poi in Italia si gira sempre intorno agli errori di forma. Grazie Maccari, certo, per essere stato con solo noi. Solo una precisazione, sì, la raccolta di firme, le 4.000 sono in una settimana, noi abbiamo appena cominciato, ma continua. Quando raggiungerete, tanto non è che c'è un limite, non è che dovete raggiungere un limite. C'è l'interesse di capire quanti cittadini di Genova appoggiano questa vostra questione qua. Grazie, buona serata. Certo. Grazie a voi, buona serata. Allora, dove andiamo, Gabardini? Presente. Vuoi commentare qualcosa? Vuol dire, avrebbe voluto, sì, fare una domanda? Un sacco di cose. Sì, avrei voluto chiedere come mai bisogna toglierlo questo monumento, in realtà. E il fatto, tra l'altro, di entrare in cavilli burocratici del tipo che ci vogliono almeno 10 anni dalla morte, e tra l'altro ci sono questi 10 anni, e sottolineare il fatto che stesse delinquendo, mi sembra, voglio dire, anche la manifestazione di Portella della Ginestra non era autorizzata. Però c'è un monumento perché sono stati massacrati, che c'entra, non è che il fatto che uno stia manifestando sia un motivo. Quindi, boh, non lo so, su Genova mi sembra tutto, diciamo che se veramente tutta Genova non vuole questo monumento, sarebbe, direi, meglio che non fosse un sindacato della polizia a richiederne la rimozione, visto quello che è successo a Genova, che tutti, infatti, sappiamo. vedremo il sindaco di Genova se diciamo riconoscerà il fondamento, almeno diciamo se è fondata questa richiesta, perché se c'è una qualche irregolarità, poi si sa, si cade sempre su questo, no? Anche Berlusconi è stato condannato per 7 milioni, ha avuto processi per mafia, la storia di Al Capone. Va bene. Se si vorrà fare un monumento, si farà un monumento, che ne sappiamo. Lina dalla provincia di Livorno, buonasera. Buonasera. Prego. Allora, io, cioè, come si fa a fare un monumento a una persona che è andato lì per uccidere? Come per uccidere? Sì, è andato lì con che cosa? Con un istintore, no? È andato ha fatto un affronto alla polizia. Sì, però è morto, era disarmato, è morto. E no, forse un po' di pietà umana ci vorrebbe, no? Non era lì per uccidere, non è che uno sarebbe un pazzo, uno che decide di entrare dentro in una camionetta con un estintore cercare di uccidere tutte. Non era neanche lì per dare l'acqua alle piante. No, certo che no. Non dite le cose come stanno. No, Lina, guardi, non dica che noi non c'entriamo nulla. Noi non c'entriamo nulla. È un ragazzo che aveva dei problemi e si drogava anche. E questo lo so per certo. E quindi? Quindi è la sinistra che sono di una falsità, per prendere dei voti non sanno più cosa fare. C'è un ragazzo addirittura che è andato con un istintore in mano, che io ho visto l'intervista del padre. Però il fatto, cioè, Lina, mi scusi, però poi io non voglio arrabbiarmi, però il fatto che fosse drogato, cosa c'entra, Lina? Anche Aldo Vrandi forse era un drogato, è stato massacrato dalla polizia. Non c'entra niente. Brava, non c'entra niente nemmeno il fatto che era drogato, però ha capito cosa voglio dire, non c'entra il fatto che era drogato. E c'entra soprattutto poi quello che è successo. È andato lì per uccidere, ha fatto un affronto alla polizia. Sì, però il fatto che era drogato non c'entra. Scusi, Lina, il fatto che era drogato non c'entra nulla, è d'accordo con me su questo? Sì, d'accordo, però a me ne abbiamo levato di mezzo. Comunque, che fosse andato lì per uccidere, diciamo, è la sua opinione, invece che è stato ucciso, diciamo, è una certezza. E quindi voi siete veramente la sinistra di una falsità, e voi siete anche falsi, non siete obiettivi. Va bene Cruciani, che Cruciani diceva, però era obiettivo, non era né di destra né di sinistra. Vabbè, piaceva a lei, ho capito, Lina. Sì. Cioè, la sinistra difende tutti i delinquenti, e poi il delinquente sarebbe Berlusconi. Cioè, è una vergogna, veramente. Difendiamo i delinquenti. Io non ho detto praticamente nulla su questa questione, volevo solo capire da Maccari perché intervenire su questa cosa. L'unica cosa che obietto è che di fronte alla pietà per una persona morta, comunque, perché è morto lui, non sono morti gli altri, è morto lui, sicuramente non era lì con buone intenzioni, però era disarmato. E sicuramente Genova questa cosa se la deve ricordare, e un monumento, una lapide che ricorda Carlo Giuliani è una cosa che ci serve per ricordarci quello che è successo, senza tirare in campo il fatto che era drogato, perché questo non c'entra nulla. Io vorrei sapere se Lina c'ha un cugino, un parente drogato, se si merita di morire in mezzo a una strada come è successo a Carlo Giuliani. 800 24 00 24, breve pausa. And now, the good news! Gratta Gratis è il primo scontrino che premia il consumatore. Sul retro di ogni scontrino fiscale è stampato un Gratta e Vinci che può nascondere uno sconto o un premio. L'idea viene da due imprenditori monzesi, convinti che l'incentivo spingerà i consumatori a chiedere sempre lo scontrino. Più che la lotta, poté la lotteria all'evasione. Si può fare. Intanto annunciamo che al TG1 c'è Ricoletta, e credo che dopo il servizio sulla giornata di oggi, 100 giorni del governo Letta, tra poco gli faranno un'intervista, e quindi potremo sentirlo anche noi, già che ci siamo. Andiamo a Massimo, che ci chiama da Arezzo. Buonasera Massimo. Salve, buonasera. Io sono contro il diritto di cittadinanza e sarei per inasprirlo per gli stranieri, se dipendesse da me. Ma non per una questione di cattiveria, ma è una questione giusto di rispetto. Prima ho sentito quel signore egiziano di Milano, che di persone come quello lì ne farei entrare 10 milioni in Italia. Guarda Massimo, sentiamo un po' male. Sì, abbiamo capito, sentiamo un po' male il suo audio. Tra l'altro è iniziata l'intervista a Ricoletta, vogliamo sentire un minuto giusto per vedere di cosa si parla al TG1, Enrico Letta. Sì, questo è dovuto al semestre che è terminato adesso. E la caduta si arresta la caduta, adesso i segnali sono tutti segnali invece che ci fanno intendere che il prossimo semestre finalmente le cose cominceranno ad andare meglio. È la produzione industriale che dice questo, sono alcuni dati che riguardano il turismo. Credo che sia oggi importantissimo, fondamentale, agganciare questa ripresa che anche in altri paesi europei sta avvenendo. Come? Bisogna cogliere le opportunità che in questi 100 giorni sono state messe in campo. Penso alle incentivazioni per le assunzioni dei giovani con una decontribuzione totale per chi oggi assume un giovane, o penso anche alle incentivazioni per l'assunzione di chi ha perso il posto di lavoro. Oggi per le persone che sono con l'ammortizzatore sociale, se un imprenditore li assume c'è un'incentivazione molto forte, così come naturalmente anche il tema delle ristrutturazioni, degli ecobonus antisismici. Vabbè, questa è Letta che nel giorno dei primi 100 giorni del governo sta riepilogando un po' quella che è l'attività del governo. Beh sì, mi direi che si raggancia anche alla notizia di Saccomanni che ha detto che la recessione è finita, almeno così titola Repubblica. Poi dopo, entrando nell'articolo, c'è scritto recessione sta finendo. Adesso non ho ancora letto l'articolo, probabilmente dopo averlo letto probabilmente la recessione forse finirà. È già un po' che Saccomanni ci prova a lanciare messaggi di ottimismo, smentito e anzi redarguito anche dal presidente di Confindustria Squinzi da altri. Vedremo stavolta dove si posa l'ago della bilancia. Gino dalla provincia di Pescara, buonasera. Ah no, abbiamo i titoli del TG1? Titoli. Il governo presenta il rapporto sui primi 100 giorni. Enrico Letta, la crisi si attenua, basta scontri, il premier in diretta al TG1. Sentenza Mediaset, bufera per l'intervista del giudice Esposito, presidente della Cassazione inopportuna, ministro chiede chiarimenti. Il Quirinale dopo l'incontro con i capigruppo del PDL, evitare interpretazioni infondate, una fase di riflessione serve serenità. Emma Bonino, padre dall'olio, è in mano a un gruppo islamico in Siria, ci sono speranze per l'inviato della stampa Domenico Quirico. Sicilia, due inchieste, gli ispettori del Ministero per capire perché non è stato possibile salvare Antonella, morta in sala parto. Primi ciacche in un mercatino di Roma per Arance e Martello, il film di Diego Bianchi in arte Zorro, il blogger comico e giornalista che interpreta in TV il personaggio del simpatizzante PD in perenne crisi di identità. Eccoci qua con Gino che ci chiama dalla provincia di Pescara. Buonasera. Buonasera, una piccola considerazione. Riguardo a quello che ha detto Zaia, il governatore del Veneto, peraltro persona elegantissima nel parlare, aveva fatto quella considerazione riguardo a Napoli, alla quale lei oggettivamente ha detto sì, in effetti a Napoli la gente il casco non lo mette. Può capitare forse più che non a Milano, ecco, mettiamola così. Esattamente. Il suo co-conduttore invece ha dato una risposta, le premetto che io sono un comunista, sì, di sinistra, eccetera, ha dato una risposta che c'entra che è comunista? Che prescinde dalla realtà, sì, del tutto ideologica e politicamente corretta, e te stiamo a parlare di Napoli. Ecco, quel modo di essere e di ragionare mi fa venire voglia di votare Berlusconi. Non so se lei ha capito. Io non ho capito, me lo spieghi per piacere. Non l'ha capito? No, la mia risposta quando ho detto che mi sembrava che fosse partito veramente molto bene Zaia e che mi spiaceva che fosse un po' caduto su una banalità di dire però il problema è che a Napoli si va senza casco, le chiedo scusa. È una cosa oggettiva, è una cosa che sta sotto gli occhi di tutti. Esatto, beh, ma le banalità sono tutte oggettive che stanno sotto gli occhi di tutti, ci mancherebbe altro, altrimenti non sarebbero banalità. Ha capito, non bisogna essere politicamente corretti sempre a tutti i costi o stare in uno schema ideologico. Ma non è una questione di schema ideologico, io semplicemente penso che non sia quello il cuore del problema, non sia che a Napoli si vada il motorino senza casco, mi sembra un po' banale ribadire questa questione, e stavo facendo i complimenti a Zaia, quindi non mi sembra, in questo senso, dicevo che quella cosa lì mi sembrava meno interessante, punto, non è che poi è un punto fondamentale. Ho capito, però è indicativo di un modo di essere che, le ripeto, mi fa venire voglia di dare il voto a Berlusconi. Cioè lei, Gabardini, le fa venire voglia di votare Berlusconi, vabbè. Allora, è una pessima critica, dovrà questa, essere che pagato dal che PDL, perché va così bene, sostiene l'elettorato di Berlusconi. Gino, voleva aggiungere qualcos'altro? La sinistra buona, lei è la sinistra quella un po' fastidiosa e petulante. Vabbè, ce l'ha con Gavardini. Grazie Gino, buona serata. Marco dalla provincia di Brescia, direi. Sì, buonasera a voi. Prego. Ascolti, no, io volevo fare un intervento su una cosa, però prima volevo fare una precisazione. Quell'ascoltatore che ha chiamato dicendo di quella suddivisione dell'evasione fiscale, sì, ha ragione, non è una cosa della Confcommercio, ma è della CGA di Mestre, l'avete pubblicata voi sul Sole 24 Ore qualche mese fa, quindi secondo me se si va a cercare si trova. Ecco, cerchiamola e troviamo. In effetti, sì. Esatto, no, ma è giusto per la precisione di quella cosa, perché l'avevo letta anch'io e in effetti mi stupisce molto questo peso forte dell'evasione legata all'amministrazione pubblica, però lì era più preciso, non era tanto il doppio lavoro quanto le tangenti, tutto sì, quel malaffare che gira intorno. Vabbè, comunque questa era una cosa. Io in realtà volevo dare due spunti di riflessione relativamente all'evasione fiscale, no? Qui fanno i blitz, vanno in giro, poi ci dimentichiamo che abbiamo 3 milioni di case abusive in Italia, che quelle non scappano, sono lì, sono ferme, magari hanno anche la corrente, magari sono lasciate all'acqua, può andare anche a cacciare. Quelle lì credo che potrebbero essere una fonte abbastanza rapida di reddito, no? Per lo Stato, giusto per essere precisi, senza poi dover fare dei grossi sforzi scenografici. Però in che senso? Scusi, le case abusive a volte sono abusive ma sono abitate, lo sappiamo, c'è questo problema. No, per carità di Dio, ma io non dico mica. Siccome il sindaco di Milano ha fatto un'operazione, sì, se ho letto bene, che ha modificato un PRG per far diventare buone delle case che erano abusive, per far guadagnare dei soldi a qualcuno, mi sembra di averla letta così, poi dopo non so se poi sia effettivamente così, però il giornale l'ha riportata in quei termini qui, a questo punto facciamole diventare tutte buone quelle case lì e diciamo bene, gli diamo una rendita, pagano le tasse come le pago io sulla mia casa e così probabilmente qualcosa... Beh, questa è la logica dei condoni che c'è sempre stata in Italia. Ma no, più che dei condoni, è proprio la logica. Dovrebbe farla emergere, dice ascolta, ce l'hai la casa, bene, allora la facciamo diventare buona, visto che... perché o la butti giù, perché... Va bene, grazie Marco, non so se vuole aggiungere qualcos'altro su un altro argomento oppure finisce no, qua. No, aspetti, perché era una premessa, sì, però veloce. No, le due riflessioni sono queste. La città di Detroit è andata in default perché aveva una spesa pubblica troppo elevata e un rapporto di un cittadino, cioè un dipendente pubblico ogni 55 cittadini. In Italia abbiamo un dipendente pubblico ogni 15 cittadini, dovremmo riflettere. Seconda cosa, molto importante, 20 anni fa eravamo 58 milioni di persone e lo Stato incassava l'equivalente di 200 miliardi di euro. Oggi ne incassa 800 miliardi, siamo gli stessi e viviamo un po' di merda. Facciamoci una riflessione su queste cose, poi capiamo dove sono finiti i soldi. Questi sono dati ufficiali, sono pubblicati sempre dal Sole, peraltro. Va bene, lei è un lettore del Sole, grazie Marco. Buona serata. Luigi da Torino, buonasera. Sì, buonasera. Prego. Senta, io volevo solo dare una testimonianza. Mi sono collegato, sì, quando si parlava dell'iniziativa del Comune di Milano rispetto a chi si chiedeva se erano ronde, se non erano ronde, quel servizio che si faceva. Quel servizio notturno, io volevo solo dire che esiste, è sempre esistito un servizio così, per esempio a Torino da 15 anni, sì, che si chiama Boa Urbana Mobile. Ma lei è un volontario di questo servizio per caso? Io ho lavorato per l'organizzazione che gestiva questo servizio, sì. Che organizzazione è? È una cooperativa. E che servizio faceva? Faceva un servizio notturno dedicato ai senza fissa dimora, che non era un servizio di sicurezza, come sì, voleva, il significato della ronda leghista è andiamo in strada per garantire la sicurezza ai cittadini. Il servizio invece di Borban e Mobile è un servizio di assistenza, che è tutta un'altra cosa. Ed è questo secondo lei che vuole fare il Comune di Milano? Sì, infatti mi stupisce, non è una cosa nuova, esiste in Italia da 15 anni ed è stato inventato a Lione, è stata fatta la prima volta. Scusi, aggiungo solo questa cosa Luigi, interessante quello che lei dice, perché anch'io so che a Milano queste cose esistono già, quindi... Diciamo dall'articolo di oggi, in questo caso del Corriere, il più esaustivo, diciamo, non si capisce bene dove vuole arrivare il Comune che parla di unità mobili sociali, perché se questa assistenza che lei dice c'è già, la fanno per esempio anche i City Angels, allora parliamo di una cosa nuova, ecco perché qualcuno ha titolato le ronde di sinistra. E comunque io personalmente sono convinto che il concetto, diciamo, del controllo del territorio e della sicurezza e quello dell'aiuto ai barboni, per semplificare, sono due cose che possono anche essere molto più vicine di quel che si crede, perché si fa una cosa facendo anche l'altra, probabilmente. Luigi, vuole aggiungere qualcosa o ci salutiamo no, qua? Io su questo questo, sì. Poi se mi permette volevo solo aggiungere una cosa, cioè, io avevo chiamato per fare questa precisazione, questa testimonianza, sì. Per cui questo servizio già esiste, non è una... Non va è bene, una questo l'abbiamo già detto. L'ultima cosa, su sì. Carlo Giuliani, sì. Volevo solo aggiungere questo, ma ripeto, pur nella pietà per la persona... E se dovessi spiegare a mio figlio che legge la targa e mi chiede chi è Carlo Giuliani, io gli andrei a rispondere: è una persona che è morta con un passamontagna mentre lanciava un estintore a un carabiniere. Cioè, voglio dire, in una manifestazione con centinaia di migliaia di persone, capito. Non lo mettiamo no, ma no, no, ma ok, però voglio dire, di perché solito, sennò sembra che c'era solo lui e la camionetta dei carabinieri, non ci dimentichiamo. Vorrei precisare sì. Che in altre manifestazioni, anche, non so, mi immagino Giorgiana Masi negli anni 70, ci sono state delle persone che hanno perso la vita, che erano dietro uno striscione a viso aperto e nella baraonda ci ha rimesso la vita. Sì. È una cosa un po' diversa andare a una manifestazione. Ma sicuramente lui non era lì, io ho detto... E dai distanza ravvicinata, cioè voglio dire, no? Lo volevo solo precisare, perché sennò sembra veramente che, no, uno passava di lì, faceva una manifestazione democratica e si è preso un colpo di pistola. Non è proprio così, ecco, volevo precisare. No, ma non è assolutamente così, nessuno di noi... Ha sostenuto il contrario, direi, nel senso che nessuno di noi pensa che Carlo Giuliani fosse uno che passava di lì per caso, ci mancherebbe altro. Ecco, no, è tutto qua. Volevo va bene, va bene, grazie Luigi. Andiamo. Grazie. Dove andiamo? Claudio che ci chiama da Roma, buonasera. Buonasera, cioè io ho sentito un po' di cosine, volevo parlare di Giuliani, del monumento a Giuliani, sì. Che poi per me non è il monumento solo a Giuliani, è il monumento a tutti quei ragazzi massacrati al G8. E lui è stato ucciso da un carabiniere che c'ha 15 giorni di addestramento, quindi è ancora peggio. Noi sappiamo chi sono i colpevoli e i mandanti. Noi abbiamo un De Gennaro, un Gratteri e tanti altri personaggi, perché c'era un signore che ricordava pure il poliziotto, la poliziotta morta, che non so, non mi ricordo se era con Borsellino o con Falcone. Ma anche quella è da mettere in conto ai mandanti della collusione Stato-mafia. A chi la vogliamo mettere in conto? Quindi io per Giuliani, che poi ho sentito pure dice è un drogato, ma i drogati chi li crea? Come i poveri, chi li crea? Questo stato di merda, con una Costituzione che dovrebbe essere rispettata nei vari articoli che danno diritto a un lavoro, a una casa, a che l'individuo stia bene e abbia stima di se stesso. Non avviene e il ragazzo si droga perché non ha scappatoio. E comunque il fatto che si droghi non c'entra nulla, secondo me, con bravo, quello che è successo quel giorno là. La signora però è da capire, quella signora sì, Lina, sì. Perché lei difende il suo piccolo territorio, no? Lei gli va bene Berlusconi perché i comunisti sono cattivi. Io ho votato per anni comunista, adesso non lo sono più perché non esistono più i comunisti, anche perché i comunisti di oggi vanno a fare comunella al Monte dei Paschi di Siena, dal Presidente della Repubblica. Questa è bella, i comunisti che fanno comunella. La Torre e compagnia. Ecco, quello che volevo dire ho detto. Bravo Claudio, grazie. Grazie. Buonasera. Un altro Claudio, questa volta dalla provincia di Brescia. Buonasera. Stasera pronto? Un sacco di bresciani chiamano, eh? Claudio? Pronto? Claudio, buonasera. Sì, buonasera. Beh, volevo intervenire, mi piacerebbe intervenire su alcuni argomenti, non so se avrò il tempo se mi lascerete parlare, anziché interrompere sempre. Prima di tutto volevo dare ragione alla signora Lina di prima, che ha ragione al 100% su quello che ha detto. Numero due, le faccio tre domande. Napolitano ha fatto una cosa bella a nominare Mario Monti senatore a vita, dal quale stiamo pagando lo stipendio ancora oggi e lo pagheremo finché muore? Mi risponde sì o no? Ma dopo che ho risposto sì o no, cosa succede? Dica che meriti ha Mario Monti, che meriti ha avuto per la Repubblica Italiana Mario Monti, perché il senatore Vito si nomina chi ha dei meriti particolari come la Montalcini. E Andreotti, per esempio. Mario Monti non è stato indagato anche quando era la Comunità Europea, sì. Perché l'aveva beccato con le mani alla marmellata, se non lo volete dire. Poi un'altra cosa, il video del signor Napolitano, sì. Quando era... eurodeputato che chiedeva, faceva la cresta sui biglietti aerei e nessuno ne parla mai, e allora solo per quel motivo lì doveva rimettersi pure 100 anni fa. Chi è che faceva la cresta? Napolitano. All'Italia, proteggendo figli, tutti i comunisti, lui ha dato conto di grazie all'Italia. Se l'Italia oggi è vivuta così è merito tutto del signor Rosso Antico del Colle, cari miei signori Lester, anche voi da quella parte sempre. Mi meraviglio che viviate nell'odio. Ma viviate chi? Scusi, viviate chi? Scusi, Claudio. L'odio di classe. Claudio. Le macchine Scusi Claudio, ascolti un attimo. Va bene, siamo uguali. Claudio, ascolti un attimo, Claudio, perché insomma, sì. Mi piace. Claudio, a me piace dialogare, no? Allora le faccio questa. Che, allora voi mi chi? Risponda, perché non parlate del video napoletano quando faceva la cretta sui biglietti aerei? Ma voi chi? Sì, con chi ce l'ha? Ce l'ha con me, Gabardini? Ho una tesi. Sì. Buonasera Claudio, grazie, arrivederci, grazie, buttate qui perché non se ne può più. Cioè, non ho capito con chi ce l'aveva con me. Il napoletano l'ha votato questo Parlamento, l'hanno votato in maggioranza, l'ha votato anche il PDL, di cui probabilmente Claudio è un elettore, allora non ho capito. Io perché sono ancora abbacchiato per le parole di prima, adesso ci danno pure dei Montiani, non capisco più niente però. Montiano tu poi, esatto. È quasi una bestemmia. È così però, perché non rispondi se Monti è bene che sia diventato senatore a vita. 800 24 00 24, ancora qualche ascoltatore, prima una good news e traffico. And now the good news. Passamano a Bolzano è un negozio dove si può prendere quel che si vuole senza usare denaro. Chiunque può donare gli oggetti che non usa più e chi intende riutilizzarli può prenderli senza pagare. Grazie a qualche ora di volontariato, il sistema funziona. Recupero e riutilizzo. Gli oggetti passano di mano. Passaparola. Si può fare l'attualità anche d'estate. Allora, c'è qualcosa su Twitter, Gabardini? Perché dire che andare in motorino a Napoli senza casco mi sembra un po' banale, non ho capito perché sia da comunisti e non riesco a uscire da questa cosa. Infatti sono uno stagista, è giusto, no? Un vero giornalista in questo momento perché dovrebbe superare la cosa e andare avanti. È vero che a Napoli si va senza casco, allora, è vero, no? Ho capito, e chi se ne frega, ma siamo ancora qua a doverci dire che a Napoli si va senza casco? Non mi sembra un problema. Però non si dovrebbe fare. Tanto da uno che dice, io sono un vecchio comunista. Ho capito, non si dovrebbe fare. Allora stiamo qua a parlare del fatto che a Napoli si va senza casco, non so, no, non mi sembra un problema. E tanto sentimi dire da uno che è comunista che io sono sinistroso perché faccio questo appunto del fatto che è una banalità, boh, non lo so. Non c'è niente su Twitter, allora. Non c'è niente, hanno spento Twitter. Hanno spento Twitter qua, in questo momento. Chi facciamo? Un ascoltatore? Bah, facciamo Roberto che ci chiama dalla provincia di Teramo. Roberto. Sì, buonasera. Buonasera. Ecco, senta, niente, volevo intervenire su Carlo Giuliani. Sì. Ecco, il discorso è che mi sembra che ci sia una gran confusione di idee, perché fare un monumento significa voler trasmettere ai posteri un messaggio. Non mi sembra che la figura di Carlo Giuliani, al di là che sia morto, povero Cristo, possa essere un esempio da indicare ai posteri. Dovremmo solo stendere un velo pietoso e smetterla di parlare di Carlo Giuliani, perché questo significa esaltare la violenza, esaltare chi si droga, esaltare degli esempi negativi. E questo al di là della destra o della sinistra. L'Italia sta andando in malora per queste idee, queste confusioni di idee. Lo vogliamo capire. Va bene, Roberto, grazie, abbiamo capito, in linea con anche altri interventi. Benissimo, a questo punto invece è arrivato il momento della nostra bella storia, che questa sera ha a che fare, siccome si sta provando lo svuota carceri, vogliamo far vedere che svuotare le carceri può servire anche a far qualcosa di utili, o quantomeno si possono fare lavori socialmente utili. Nessun riferimento a la a new entry, questa esatto. Cosa, ecco. Allora, intanto sigletta. Allora, salutiamo intanto Umberto Broccoli, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Voce nota della radio italiana, perché lui conduce su Radio 1 con Parole Mie e in Europa. Sì, sì. da tanti anni, da tanti anni, una voce, basta sentirlo per entrare. Gabardini, tu sì, ero in dubbio se potevo, non potevo intervenire, posso? Perché no, è vero, c'è la regola in di questo ingaggio, caso posso o perché, no, va bene. Gabardini non può perché abbiamo la regola di ingaggio, non può parlare con gli ospiti, solo con gli ascoltatori. La bella storia è che riguarda Umberto Broccoli, quando era sovrintendente, questo sì, ai beni culturali di Roma. Sì, esatto, sì, sì. Ecco. E avevamo fatto un buon progetto con, proprio con il Ministero di Grazia e Giustizia, esatto, per cui i detenuti in semilibertà, sì, che venivano a lavorare gratis ovviamente, con una piccola paga, una diaria, sì, e pulivano praticamente le aree archeologiche. Era nato per caso nel 2009, sì, cinque di loro facevano il lavoro di 50 normali. Perché facevano il lavoro di 50? Perché erano perché molto motivati a stare all'aria aperta. Sì, sì, perché stavano all'aria aperta, perché poi si appassionavano materialmente sulle rovine antiche, proprio amavano materialmente, dopo un piccolo corso che gli avevamo fatto noi, tutti i funzionari della sovrintendenza, proprio si appassionavano, erano diventati veramente quasi dei custodi. Mm. Poi il secondo e il terzo anno, con un finanziamento maggiore, 50-50, metà noi, metà Roma Capitale, quindi il Comune, e metà il Ministero di Grazia e Giustizia, questi detenuti sono arrivati a un numero, mi pare di 18, di 35, insomma qualche decina, posso sbagliare, e li abbiamo un po' sparpagliati in tutte le aree archeologiche di Roma. E io ricordo delle cose meravigliose fatte ai Fori Imperiali, fatte al Campidoglio, fatte in periferia, perché non ci dimentichiamo che Roma è anche e soprattutto periferia, e quindi se no viviamo del centro storico, siamo centripeti, e non vale la pena. I Fori Imperiali, che adesso sono invece nell'occhio del ciclone per tutt'altra vicenda. Questi progetti, però, quanto è difficile fare? Perché noi sappiamo anche dalle statistiche che tutti i detenuti che partecipano a questi progetti poi hanno una recidiva molto più bassa, cioè è un'assicurazione che facciamo anche su noi stessi, sul fatto che non si torni a delinquere, oltre a sfruttare la manodopera, in questo caso, anche diciamolo in maniera brutale, per fare delle cose utili. A Roma ce ne sono da fare tantissime per quanto riguarda i beni culturali, però non è facile fare questi progetti, oppure per te in quell'occasione lì siete riusciti con Alemanno e con chi era il Re Bibbia? Era prima la Severino e poi la Cancellieri, quindi è stata un'operazione, anzi, ma non ho trovato molta difficoltà, perché si è trattato di mettere d'accordo, di parlare a volte non nella pubblica amministrazione, come io sono un tecnico, non sono un politico ovviamente, come nella politica, a volte non ci si parla, no? E lì è bastato alzare il telefono, il ministro è venuto al telefono e ha detto ci sarebbe questa cosa, la cosa più semplice del mondo, realmente è così. Noi abbiamo dato addestramento tutte e anche ovviamente un minimo di corso, perché insomma non è come pulire la strada, insomma si lavorava su beni culturali, certo, e loro hanno lavorato, Alessio, hanno lavorato proprio con grande forza, con grande lena, e lo dico, cioè sono fatti dimostrabili, al di là del fatto che lo dico io, potrebbe anche bastare, molti di loro addirittura un paio, due o tre si sono laureati, cioè hanno praticamente chiuso il loro corso di studi appassionandosi su queste sempre cose. Sempre sulla questione dei beni culturali. Sì, esattamente. Quindi archeologi, esattamente, anche loro, come tra l'altro Umberto Broccoli, sì, ho dimenticato sì, di dirlo, sì, certo, sì, se no sì, non era solo intendente a caso dei beni culturali di Roma. Quindi un bellissimo progetto, una bella storia che è andata a buon fine, questo per dimostrare appunto che si può fare, insomma si possono coinvolgere i detenuti in progetti di questo tipo qua, che portano un beneficio ai comuni, in questo caso ai beni culturali, e anche a loro, viva Dio. Speriamo... Ma guarda, l'alternativa sì, è lasciarli dentro le celle in otto, sovraffollati, oltretutto andando contro, lo dico senza enfasi, contro la Costituzione, che prevede, sì, chi ha sbagliato deve pagare, ma prevede proprio testualmente, cito l'articolo più o meno a memoria, una rieducazione, quindi riabilitazione, quindi reinserimento di costoro nella società. Questo è stato senz'altro un punto che mi auguro che continui, perché dal 2009 fino allo scorso anno è stato un crescendo oltretutto di ecumene, di partecipazione, di entusiasmo e soprattutto di risultati ottenuti, questo non dimentichiamolo mai. Oggi, come dicevi giustamente Alessio, che questi sì, che i fori vanno adesso in tutt'altra direzione, si parla di questa pedonalizzazione che ancora non ho visto ben realizzata, ma questo è un altro. Tra l'altro da ex sovrintendente a questo punto ci scatta la domanda anche su questo, come la vedi? Noi abbiamo sentito Fuxas qualche sera fa, che tra l'altro lui è stato coinvolto in alcuni progetti, ha detto ma mi sembra tutto un po' fumoso, tutto da rimandato, guarda, a settembre. Marino, guarda, sì oggi ho partecipato anche a altri incontri in questo tipo, lo dico proprio semplicemente con l'occhio dell'osservatore, a me sembra la più colta corsia preferenziale del pianeta, perché è stata presentata come ovviamente la più grande area archeologica del pianeta. È una corsia preferenziale. Perché ci passano autobus, tassi, NCC. Qui tu dici altro che pedonalizzazione. No, è una la più colta corsia preferenziale del pianeta, perché il traffico privato passano anche molto più veloci. Sui giornali di oggi si aspettava un tot numero, quindi un abbattimento, mi pare a 50 automezzi al minuto, e siamo sui 300. Posso sbagliare, chiedo scusa, però comunque siamo su numeri assolutamente lontani da quelle che erano le previsioni. Quindi è diventata una corsia, i fori imperiali sono diventati una corsia preferenziale, la più colta perché passano il foro romano. Quindi non... Però non può essere questa, mi sembra di capire, una soluzione che funziona. Ma quindi secondo te Marina ha voluto piantare un po' la bandierina subito a un mese, poco più dall'insediamento, due mesi? Guarda, questo può essere, non lo so, non ho parlato con Marino di questa cosa, però so senz'altro una cosa, che da 35 anni si dice di pedonalizzare, per pedonalizzare intendo dire l'area deve diventare pedonale, cioè ci devono passare soltanto i pedoni e le biciclette, e questi sono 35 anni che lo si ripete, Petroselli, Rutelli, Veltroni, Alemanno, e c'è un problema di viabilità. Ora, ripeto, sono passati centinaia di mezzi pubblici, i pedoni ovviamente sui marciapiedi, perché oltretutto i mezzi pubblici erano anche molto veloci. Rischiavano chiaramente di finire sotto gli autobus. 17 biciclette. Questo particolare io, in effetti, che non sto a Roma, non l'avevo sottolineato abbastanza. Va bene, grazie mille Umberto Broccoli per essere stato con noi, archeologo, ex sovrintendente Beni Culturali di Roma. Hai sentito che bel progetto Gabardini? Sì, molto bello. Queste sono cose che fanno bene, tra l'altro uno che se ne intende di queste cose è Zanonato, adesso è ministro dello sviluppo, non c'entra nulla, però a Padova li fanno questi progetti, quindi bello portarli avanti, perché, ripeto, sono un'assicurazione anche per i cittadini, sulla sicurezza di tutti. Siamo arrivati al finale. Domani non ci sarai perché sei sul set a Varese, questa cosa magari qua. Vi telefono già oggi, cartellino giallo, poi domani, poi rosso, ci sei. Poi l'ascoltatore rischiamo tantissimo, mi sembra. Grazie ancora a Riccardo Buccero, Laura Faggini in redazione, Andrea Piana che ci ha aiutato a scrivere il programma, Valeria Bernardi in regia, Alessio Maurizio e Carlo Gabardini. Salutiamo domani, tutti un pochino al telefono, vedremo quello che riusciremo a fare. Sì, salutiamo anche chi ci ascolta in podcast. Buona serata. And now, the good news! Dal 2012, le mense scolastiche del comune di Macerata adottano solo cibo biologico e a chilometro zero. Mentre tutti tagliano, qui si investe sull'economia del territorio, sui produttori locali e soprattutto sulla salute dei bimbi. Chilometro zero, zero rimpianti.